Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. E buonasera a tutti, benvenuti a Quando eravamo futuro, questo nuovo programma di Runtime Radio che potete trovare tranquillamente su Spreaker tra tutti i vari podcast di Runtime Radio, e quindi già da domani mattina, quindi poche ore dopo la live, ovviamente potete tranquillamente trovare già, insomma, su tutti i vostri feed reader e via dicendo. Cercateci anche su Facebook, c'è anche il gruppo proprio Quando eravamo futuro, basta che, insomma, lo cercate, digitate, lo trovate facilmente, soprattutto perché in questo momento c'è la copertina con UFO Robotta e di solito ci sono comunque le copertine dei nostri episodi, quindi li trovate abbastanza facilmente. Ringrazio e saluto per la partecipazione e ovviamente anche per la costruzione, la creazione di questa trasmissione, ma in particolare anche di questo episodio, Carlo Sant'Agostino. Ciao Carlo. Ciao a tutti, stasera prepariamoci perché non so come verrà questo episodio, ma una cosa la so. Io invece lungo. Ok, lungo pure. Ma quindi è una minaccia proprio questa. Certo. Io invece non so, che è la cosa più importante, ma insieme a me non sa neanche Davide Gatti. Esatto, stasera con voi ascoltatori farò l'ascoltatore, dove cercherò di introdurmi, perché io ero in un'età un po' così, una via di mezzo tra... Sei vecchio. Sono vecchio, quindi tutto quel momento pensavo ad altro, se devo dire la verità, non ai cartoni animati, dei robot. Hai ragione. Pensavo alle robottone. E robottane anche un po'. Salutiamo anche Roberto Tomaiuolo. Ciao ragazzi, anch'io non so, soprattutto non so se riusciremo a finire, visti tutti i casini che abbiamo avuto e che i nostri ascoltatori non possono conoscere poco prima di partire. Quindi... Esatto, e poi i casini dell'ultimo secondo, quella è la cosa più importante. Esatto. Vabbè, io intanto tocco il monitor del tablet, così tanto per, insomma. Tocca tutto. Io intanto tocco perché sennò va in stand by e sti cazzi, insomma. Va bene, allora ragazzi, salutiamo immediatamente tutti quelli che sono in chat, quindi PRG, Cuciniere, Chat e Michela in questo momento. E ricordiamo anche che se volete potete anche partecipare su Telegram tramite la nostra chat che si chiama Dirette Runtime Radio, scusate, mi impiccio ogni tanto, dove c'è Gianluca Sansò che scrive sia di qua che di là, quindi ci vuole rendere la vita, insomma, molto, molto semplice. Allora, abbiamo detto, questa è una puntata che ha già scaldato gli animi, anche prima ancora, ma questo un po' lo sapevamo, insomma, abbiamo detto partiamo la seconda puntata, entriamo a gamba tesa sui nervi scoperti e i cuori palpitanti dei giovani nerd degli anni 70-80, e parlando di robottoni che, insomma, è proprio, c'è gente che si è già accapigliata, no? E poi quando inizi a parlare dei robottoni, che di solito si parla dei robottoni giapponesi, dei cartoni animati, insomma, che noi nati negli anni 70 abbiamo visto emergere dalla televisione, delle prime televisioni a colori nel nostro paese, diciamo che alla fine poi dopo si parla dei cartoni animati e si finisce sempre a parlare di Giorgi, non si sa perché. La famosa scena di Giorgi, ma stasera non parleremo di Giorgi. Esatto, è stato tassativo, non si parla. Questa è una puntata proprio sui robottoni, ma tra l'altro robottoni che rientrano in un range, no? Che è quello gli anni, cioè, io mi sarei fermato agli albori, diciamo, però ho visto, insomma, un elenco dei robottoni gigantesco con canzoni. Sì, adesso non è che se li faremo magari tutti, l'elencone è lungo, però sicuramente il target in cui ci andremo a posizionare sarà quello dei primi 3-4 anni dall'inizio fino a quando ci fu il boom delle serie robotiche, diciamo, dei robottoni giganti in Italia. Bene, bene. E specifichiamo in Italia, ok? Specifichiamo in Italia perché precisiamo una cosa, poi dopo non so come la vogliamo affrontare, perché voi dovete sapere che noi ci approcciamo a questa trasmissione con una qualità di briefing pari a quella di accendi e registra, che poi è, insomma, è quello che facciamo di solito, e quindi non sappiamo bene chi cosa vuole dire perché, però una cosa la possiamo dire così, un attimo d'approccio, che io ad anni di distanza, quando poi parlavo con il caro Luca Casciola, insomma, con il quale abbiamo fatto tante trasmissioni sui robottoni, abbiamo provato anche a intervistare quel ragazzo italiano che aveva scritto quel libro sulla storia dei robottoni, insomma, e via dicendo, e in realtà, non essendo un super appassionato, però avendoli comunque apprezzati, vissuti, mi sono piaciuti, insomma, ho scoperto che in Italia hanno fatto un gran casino, cioè nel senso un gran casino, cioè io addirittura pensavo, e qui poi dopo interviene Carlo e tutti, insomma, che Goldrake fosse il primo, ma proprio il primo proprio, invece non solo non è il primo, ma addirittura non è neanche il primo di quella serie lì, perché da noi Mazinga è arrivato molto dopo, in realtà invece... Non esagerare adesso, non molto dopo. Abbastanza dopo. Perché... Un anno, se ti sembra tanto, no, però comunque... Ah, non lo so, però io mi ricordo che ho visto Goldrake, e poi ho visto Jig, e poi ho visto Mazinga. Cioè questo era l'ordine, ok. Sì, sì. Che poi tra l'altro... Un suo ordine diverso. Esatto, che poi io invece mi ricordo che addirittura quando è uscito Goldrake sulla Rai... E poi su Mediaset, quindi sui canali 5, no, quinto canale, come si chiamava all'epoca, insomma, non mi ricordo neanche. Comunque alla fine era uscito sto gig robot, allora tutti dicevano, vedi, copiano la Rai. Si diceva queste cose perché... E hanno ragione in un certo senso, perché copiarono la Rai proprio per il grande successo che ebbe Goldrake. Comunque quello che dici tu è corretto, ma gran casino, adesso non stiamo esagerando. Un po' di casino, dai, un po' di casino. Il casino in realtà non fu fatto apposta, ok, quel casino. Non è che l'hanno fatto scientemente dicendo no, adesso noi li mettiamo a cazzo, no. Diciamo che è derivato da una casualità, dalla fatalità del grande successo che ebbe Goldrake in quell'anno. Perché allora, scacchi che magari non pensavano di avere questo successo, magari. Assolutamente no, non lo immaginavano neanche, assolutamente. Allora, mettiamo un attimino i puntini sulle i, come diciamo. Che non facciamo mai noi questa cosa. No, non facciamo mai, guarda. Allora, soprattutto io non lo faccio mai. Quindi dicevo... La puntata l'ho strutturata, almeno la vorrei strutturare, mettiamola così, dal punto di vista cronologico, con la cronologia italiana, che è un po' diversa. Di solito quando trovi articoli su internet che parlano del fenomeno robottoni, eccetera, ci tengono a specificare quella che fu la cronologia reale dell'uscita. Quindi trovi sulle pagine Wikipedia, eccetera, le serie che vengono pubblicizzate e pubblicate e spiegate con l'anno di uscita giapponese, come è corretto che sia, che dove poi sono nate. Il problema è che noi in Italia abbiamo avuto questo fenomeno. Ecco, una cosa interessante da dire è che l'Italia è stato, dopo il Giappone, il più grande importatore e dove sono uscite il maggior numero di serie robotiche in tutto il mondo dopo il Giappone. Questo è successo... Di cui la metà le rubavamo, diciamo anche questo, no? Alcune le abbiamo rubate, non la metà, però alcune sì, soprattutto una importante, ma lo diciamo dopo. Il fenomeno dei robottoni nasce in Giappone e nasce molto prima, 10 anni prima di Goldrake, di quando è arrivato Goldrake in Italia. In Italia Goldrake è arrivato nel 1978, ma il fenomeno dei robottoni in Giappone scoppia invece ben prima, nel 63, quindi più di 10 anni prima, con una serie del grande maestro Yokohama, tratto da un manga del 56, ed era Tetsujin 28 Go, un robottone ciccione con il naso a punta, eccetera, che ci fu anche un remake che poi arrivò anche, questo non è mai arrivato in Italia, arriva un remake, il Super Robo 28, è arrivato nel 1980. Nel 1978 arriva Goldrake in Italia, ok? Il 4 aprile del 1978 su Rai 2. Goldrake era una serie che in Giappone era andata in onda dal 1975 al 77, quindi quando arriva da noi era già, tra virgolette, vecchia, cioè era già una serie. Arriva perché in quel periodo la Rai inizia a collaborare con la Toei in Giappone per la produzione di cartoni animati. Infatti in quel periodo lì, poco prima di Goldrake, in realtà in Italia esce Heidi, ve la ricordate Heidi? Tutti ce la ricordiamo, che era una coproduzione italo-giapponese e disegnata dai giapponesi, ma finanziata in parte dalla Rai italiana. Ah, questo non lo sapevo, quindi interessante. Da questi rapporti arrivano questi primi scambi, diciamo, e la Toei propone alla Rai il cartone di Atlas UFO Robot. Ecco, perché pure qua capiamo un attimo il mistero, perché qui Atlas UFO Robot, Goldrake, come cazzo si chiamava questo? Allora, il robot in Giappone si chiamava Grandizer. In Italia decidono di chiamarlo Goldrake. Sul nome di Goldrake ci sono varie leggende, ma non c'è stata mai una gran chiarezza. Molti dicono che fu prima detto Goldorak in Francia, perché l'importazione fu una collaborazione tra Antenne 2 francese e la Rai italiana. E il fatto che fu chiamato Atlas, la serie fu chiamata Atlas UFO Robot, ci presenta un cosiddetto esempio molto bello di fattoide o di fake news che diventa poi un fatto. Vediamo, io non lo voglio dire, ma sicuramente tra Simone e magari Roberto, non so, Davide, avrete già sentito magari la spiegazione che si dà in giro su come mai si chiama Atlas UFO Robot. Guarda, no, io non so. Io sapevo questa cosa dei Goldorak, però il resto non lo so, insomma. Sì, quella della brochure che voleva dire brochure UFO Robot, la parola Atlas, loro non l'hanno capito e ce l'hanno lasciata. Questo è quello che sapevo io. Questo è riportato in tanti siti, anche su Wikipedia, eccetera. Questo è un fattoide, cioè un fatto falso, una notizia falsa che si è autoalimentata ed è diventata una specie di notizia vera che viene riportata in giro pur essendo falsa. Come si fa a capire che la notizia del fatto che Atlas era scritto Atlas UFO Robot sulla cartellina francese, quando gli italiani della Rai lo videro lo chiamarono Atlas, ma in realtà Atlas voleva dire brochure? Molto semplicemente andando a cercare come si dice brochure in francese. Brochure è una parola francese già, e secondariamente Atlas in francese non è mai usato come brochure, cioè Atlas in francese non vuol dire né brochure né opuscolo né niente di tutto questo, ma vuol dire semplicemente e solo ed esclusivamente Atlante, come in Italia. E Atlante in italiano ha due soli significati, come in francese, cioè uno, l'Atlante geografico, il libro con le cartine, che deriva dal nome di Atlante, il dio greco che si teneva gigantesco, che si teneva sulle spalle la terra. Infatti Atlas, come è stato poi dichiarato dagli stessi autori di questa compravendita dei diritti di Goldrake in Italia, era stato dato come nome perché l'UFO robot gigantormico, molto grande, come Atlante, gigantesco come Atlante, che si teneva, come il dio Atlante che si teneva la terra sulle spalle. Quindi il nome in realtà derivava da una assonanza con il dio Atlante, Atlas, della Grecia, e non con questa storia dell'Atlas, cartellina, brochure, eccetera. Che invece adesso, se tu voi andate a cercare in internet, trovate decine di siti che dicono ah, era così per questo motivo. Siccome una storiella divertente piace, questa viene copia e incollata, non si sa chi l'ha inventata in origine, ma è diventata praticamente poi viene accettata come un fatto reale. E questa che ho appena raccontato è una storiella sul nome di Atlas, ma ce ne sarebbero tante altre da raccontare. Molto spesso le racconto sulla storia dell'informatica, la storia del videogioco, lo sapete, rompo sempre le balle con questo. Questo vuol dire che qualunque notizia noi andiamo a trovare, per quanto strana ci sembra, dovrebbe essere comunque verificata tramite magari ricerche incrociate, andandosi a informare un po' di più. Non basta tanto, non ci vuole molto, però bisognerebbe farlo, e molte di queste notizie non verrebbero più trasmesse. Però molto spesso quando uno sente una storiella che magari arriva da una fonte affidabile o da una fonte considerata affidabile, viene presa così com'è e è presa per dato di fatto e diventa poi una storiella da raccontare. Questo era sul nome Atlas UFO-Robot. Comunque ritorniamo al discorso di Goldrake che arriva nel 1978, ha su di noi un effetto dirompente. Allora, Davide, pur non avendo visto niente, Goldrake l'hai visto per forza. Cosa ti ricordi? Sì, io avevo 13 anni, ovviamente era per me la prima volta e quando sono usciti ero rimasto affascinato come tutti quelli che conosco. Non ce n'è nessuno escluso che non l'abbia visto. Penso che in Italia non c'è stato nessuno che non l'abbia visto, no? E sebbene io l'abbia visto in quel periodo, poi non l'ho mai più rivisto dopo. Quello che sono un po', come dire, tagliato fuori, perché ho la memoria di 40 anni fa. Cioè, me lo ricordo, l'ho visto, poi non l'ho mai più rivisto, se non la sigla, che è l'unica cosa che ho visto spesso. Vabbè, però vale pure per me questo, non è che io me l'ho rivisto. Però l'ho visto e quando l'ho visto... ho vissuto, cioè, qualsiasi cosa ci fosse da guardare sostanzialmente c'era solo quello e poi dopo tutto il resto passava in secondo piano e da lì è cominciata la tra virgolette la voglia di guardare solo quel tipo di cartoni animati e poco altro, gli altri passavano in secondo piano, se non era un robottone non si guardava, insomma. E anche tu Roberto cosa ti ricordi della prima volta di Goldrake? Io ero più piccolo, per cui fu una grande emozione, era, come possiamo dire, la nuova frontiera, passare da Furi a Cavallo del West, quel genere di... Faccia pensieri. Esatto, a un'altra cosa, dove c'era il supereroe, il buono contro i cattivi, però fatto per noi, se vogliamo, quindi senz'altro una grandissima emozione. Su questo buono contro cattivi io ci tornerei, perché in realtà uno degli effetti dirompenti di questa serie, nel bene e nel male, uno fu il fatto che l'Italia per la prima volta fu presentato, ma a livello praticamente mondiale, al di fuori del Giappone, una serie manga, una serie anime a cartoni animati in una TV nazionale in prima serata. E questo ebbe un effetto dirompente perché la qualità che avevano quegli anime in quel periodo rispetto, anche tecnica di disegno, rispetto a quello che si vedeva normalmente nelle serie televisive, non nelle serie cinematografiche, non andiamo a confrontarlo con quello che si faceva al cinema con i cartoni, perché molti dei cartoni che vendevamo magari erano corti cinematografici riadattati alla televisione, dico Tom e Jerry per esempio, e avevano una qualità molto maggiore, ma la maggior parte dei cartoni dell'Hanna-Barbera eccetera non si avvicinavano minimamente alla qualità che aveva Goldrake come cartone animato di per sé stesso. Sì, c'era una standardizzazione proprio sulle questioni di risparmio, proprio anche di tecniche d'animazione, c'era un particolare. Buonasera Angela. Vai, scusa. Dirompeva e soprattutto introduceva, tu Roberto hai accennato discorso buoni contro cattivi, e in realtà i cattivi di Goldrake non erano così cattivi. Una delle grandi effetti dirompenti, innovazioni che introdussero Goldrake per primo, perché è il primo che arrivò in Italia, e poi tutta l'invasione di cartoni animati giapponesi che arrivò dopo nel nostro paese, fu la differente morale dei giapponesi, perché in Giappone non arrivavano dalla morale nostra, morale cristiana, no? Quindi dove il bene e il male sono ben separati e divisi. Ma loro, presumo che tu lo sappia, Roberto, se no ve lo dico io, comunque il Bushido, voi lo conoscete, no? Il codice di stile di vita che arriva, la morale giapponese, è fondamentalmente derivata dal Bushido e poi diciamo dal buddismo Zen, e che impongono una morale diversa, dove il cattivo è cattivo ma non completamente cattivo, è anche un po' buono, e il buono non è proprio buono buono, ma è anche un po' cattivo, cioè il buono magari diventa cattivo per sconfiggere i cattivi, che però se li guardi bene non sono così cattivi ma sono anche un po' buoni. Infatti noi ragazzi ci siamo appassionati a Goldrake, che spesso magari ti veniva da, non dico ti fare, ma comunque ti piacevano anche i cattivi. Chi se li ricorda i cattivi di Goldrake, il primo cartone che c'erano, i vegani? i mostri di Vega. Quello con la doppia faccia, mezza uomo, mezza donna, che si apriva, Riegel, sì, ve lo ricordate? Come no? Il generale Vega, Koros di Daitan 3, per dirne un'altra che è venuta dopo, ma ce ne sono mille esempi di cattivi che alla fine un pochino, ai quali tutti ti ci affezionavi anche al cattivo, perché vedevi la vita del cattivo, che non era proprio, cioè scoprivi che il cattivo aveva anche lui una sua vita, una sua esistenza. Ci sono degli episodi particolari, per esempio ne ricordo uno in sempre in Goldrake, dove c'era un, non mi ricordo se era Goldrake o dai, adesso mi confondo ragazzi, purtroppo è la vecchiaia. La memoria, la vecchiaia. Comunque c'era un cattivo che poi diventava buono, veniva trovato in una stalla, e era uno vegano mi sembra, trovato nella stalla da cose che poi alla fine diventava amico degli umani. Insomma c'era tutta una serie dove faceva capire che i cattivi non sono mai completamente cattivi se proprio andiamo a vederli, così come c'erano degli episodi dove magari i buoni si incazzavano da bestia e diventavano magari cattivi. Questo invece nella morale nostra tradizionale, nella visione europea e anche americana, non succedeva mai, cioè il buono è sempre buono e il cattivo è sempre cattivo, il cattivo deve fare la fine del cattivo, finire all'inferno, mentre il buono deve andare per la sua strada, insomma. Beh, allora diciamo che a me non mi hai chiesto che cosa mi ricordo di Goldrake. Non l'avevi detto prima tu? No, non l'ho detto, io non ho parlato no. Fino adesso non posso parlare. Prima l'hai detto, vabbè, comunque. No, vabbè, no, mi ricordo il fatto che era arrivato prima, quello mi ricordo, insomma. Però se sì. Tu mi dici che cosa mi ricordo del cartone animato, forse è l'unico cartone animato insieme a Jig che mi ricordo abbastanza bene i personaggi, anche magari non mi ricordo i nomi, però mi ricordo bene i personaggi, mi ricordo anche questa cosa, questo approccio anche all'America West, no? Cioè, la fattoria, il ranch, no? Tutte queste cose un po' ranch. Così. E poi sì, sì, ma al di là di questo, una cosa che hai detto tu adesso e mi hai fatto venire in mente, non so, poi magari questo è un discorso che esula un po' necessariamente un po' dai robottoni, ma in generale ha colpito un po', secondo me, l'anime in Italia. E il fatto che proprio per questi problemi anche di morale molte opere sono state deturpate pure dal doppiaggio, anche dall'editing, cioè nel senso comunque molte opere in Mediaset sono state completamente stravolte. Tant'è che parlando poi a anni di distanza con appassionati dicevo ma quello poi finiva così, dice ma no, ma è tutta un'altra storia, cioè non ci avevi capito niente di come doveva essere. Ma non so questo quanto abbia colpito anche il fenomeno dei robottoni, no? Però penso insomma che il fenomeno dei robottoni è con Goldrake, che è quello che ha introdotto questo tema. Poi da noi sono arrivate tutte le altre serie di cui stasera non parleremo. No, sì, sì, solo robottoni. No, però vabbè, era una cosa importante da dire, perché comunque, come dici tu, cioè arrivando da una cultura che è sostanzialmente diversa, poi a un certo punto c'è stato un lavoro di riadattamento, anche un massacro da quel punto di vista, insomma, no? Che poi alla fine molte serie giapponesi dopo sì, perché ci fu il tentativo di rendere compatibile compatibile diciamo la nostra morale, la nostro. Beh, questo è successo più che altro però con le trasmissioni o con i cartoni animati che erano dedicati a un pubblico più diciamo adulto del bambino classico, per esempio Daitan 3 aveva delle scene già, ma tanti altri cartoni. Vabbè, pure Lupin, cioè troppi. Infatti non volevo parlare di Lupin. Bene, Lupin, allora Candy, eccetera, Giorgi. Lady Oscar sono stati censurati. Va bene, okay. Non ci riuscirai mai. Torniamo a Goldrake, perché c'è un'altra cosa interessante. Per esempio, su Topolino del 16 luglio 1978, prima vi ricordate che ho detto la tecnica realizzativa era molto più era molto migliore rispetto a quella cui eravamo abituati per i serial TV, e quindi succede che ci si inventa, per giustificare questa qualità migliore, che in Giappone, siccome erano avantissimo dal punto di vista della tecnologia, il cartone animato fosse realizzato col computer. Questa ve la cito perché è bellissima. Topolino, 16 luglio 1978, 7 giorni TV. Per realizzare Goldrake, questi emuli di Disney dagli occhi a mandorla hanno fatto ricorso a un cervello elettronico, nel quale hanno inserito i dati riguardanti le vicende, il tipo di disegno e i colori previsti. Il computer ha quindi fornito tutti i ragguagli tecnici perché i cartoni animati risultassero perfetti, una tecnica quasi fantascientifica. Okay. Ma diciamo che questa storia, che è abbastanza risaputa, poi in realtà ha fatto il giro dei giornali, no? Perché poi dopo, Sì, perché dopo da dire, addirittura su dei libri, cioè c'era riportata sta questione, no? Il fatto che era fatto tutto dal computer, perché i giapponesi, che poi tra l'altro io ne abbiamo fatto una volta una trasmissione pure con Luca Casciola, mi sono sempre domandato, ma secondo, vabbè, è vero, no? E questo l'abbiamo detto tante volte, che c'era una visione immaginifica del computer negli anni 70, no? Molto esotica, no? Da quel punto di vista. Però io mi sono sempre domandato, ma secondo questi, il computer esattamente che faceva? Cioè, al di là di... Questo ci riporta comunque un fatto che, uno, i giornalisti che dicevano stronzate esistevano anche negli sono anni sempre 70. Esistiti, certo. Quindi le fake news non sono un'invenzione di internet, sono una cosa che esisteva, che esiste da sempre. Io ho scoperto stasera che nel 78, beh, anche prima, perché erano degli anni 60, c'erano già i vegani. Salutiamo Girasole, chiaramente. E salutiamo Danil in chat, non so come si pronuncia. Però. Comunque, per dire, le fake news esistono da sempre, da 2000 anni fa. Ma sì, c'era sì. Qualcuno questo... che scriveva, non so, che c'era qualcuno che camminava sull'acqua e che moltiplicava i panini. Ma guarda, io in questo caso però non la definirei neanche esattamente una fake news. Secondo me era proprio una visione ingenua del genere, nel senso, secondo me, in qualche maniera il giornalista che non si è documentato, poi allora non è capito come oggi, che comunque tu fai una ricerca su internet e puoi arrivare, diciamo, se fai una ricerca approfondita puoi arrivare alla notizia, alla conclusione. Allora magari 40 anni fa magari era un po' più complicato, ti arrivava questo aggancio e tu lo davi per buono, no? Cioè, nel senso, il problema è che qualcuno la balla la diceva. Addirittura, io mi ricordo che qualcuno fece proprio un reportage dal Giappone dove praticamente avevano intervistato. Mi ricordo questa cosa perché stava sul libro che era stato riportato, no? La fotografia di sto tizio che era praticamente in teoria l'autore di Goldrake, e che poi non era nessuno, questo era uno che lavorava lì, era una specie di impiegato, però nella storia costruita in Italia lui era l'autore che poi dava al computer le informazioni per la costruzione del cartone. Questa non la chiami fake news, non la chiami balla colossale, non la chiami invenzione, lo è, lo è di fatto, però secondo me non c'era una malizia, cioè secondo me era solo fantasia, cioè nel senso, certo, le bugie sono fantasia, diciamo che poi all'epoca anche era più difficile poter controllare per gli utenti. Esatto, questo era il fatto, ma il fatto che fosse una fake news, una balla, una notizia inventata, certo, ci stava. No, ma è così, Carlo, sì. Carlo, abbiamo detto che è un'opera di Go Nagai, spero. No, non l'abbiamo ancora detto, però aspetta, perché prima adesso stiamo parlando di conseguenze, eccetera, quindi dobbiamo andare ancora nel dettaglio. Vai avanti. La cosa divertente è che dopo qualche anno, un po' di anni, negli anni 90 ci furono degli approfondimenti, ci fu un giornalista che andò a chiedere, Federico Volpi, andò a chiedere, a intervistare a un portavoce della Toei, e gli raccontò questi articoli, gli lesse parte di questi articoli che si dicevano in Italia. Questo è scoppiato a ridere in maniera clamorosa e ha detto: ma scusi, ma visti i nostri studi nel 91, qua non c'è nemmeno l'aspirapolvere perché è tecnologia troppo avanzata, e Goldrake è del 75, a quell'epoca non avevamo neanche i word processor. Quindi facevamo il culo con le matite, le penne e tutti gli aggeggi, altro che computer. Esatto. Comunque, per parlare della ricezione del fenomeno in Italia, ci furono questi fatti, innanzitutto, che iniziarono a screditarli perché dicevano fatti col computer. Sì, era una denigrazione alla fine. Poi, denigrazione potente, e anche arrivarono a interrogazioni parlamentari, a movimenti di mamme contro i cartoni animati. Cioè, ci fu veramente, veramente un fenomeno, diciamo, nazionale di adulti contro questo tipo di innovazione. La mia ipotesi è perché introducesse proprio questo nuovo tipo di morale che non veniva capita. Beh, sì, mentre i bambini, noi che eravamo bambini, l'assorbivamo in tutta la sua potenza e in tutta la sua, diciamo, anche bellezza. E secondo me, questo però è una mia opinione, ha formato la nostra generazione in maniera differente, nel senso che noi comunque, ragazzi, i cinquantenni di adesso, hanno comunque una morale leggermente diversa dalla morale delle generazioni precedenti, grazie al fatto che sono stati introdotti questi elementi differente morale rispetto alla differente cultura anche. Proprio cultura, non è che guardando Goldrick assorbi la cultura giapponese, non puoi assorbire la cultura giapponese guardando Goldrick o anche gli altri cartoni animati, però sicuramente dal punto di vista del giudizio morale qualcosa ti rimane, cioè di quello che dicevo prima, di questo dualismo buoni e cattivi che non sono così, così separati, e degli atteggiamenti che fanno parte del bushido, dell'onore, di tutte quelle cose che sono tipiche della cultura giapponese e che sono state mitigate, trasferite alla nostra generazione attraverso questi cartoni animati. Io ci aggiungerei anche il fatto che non veniva assorbito e quindi veniva contestato anche per il fatto che, come dicevamo oggi in chat, queste opere non erano necessariamente per bambini o comunque pensate esclusivamente per bambini, cosa che per noi in Italia era inconcepibile. Era un cartone animato, quindi era necessariamente per bambini. E questo creava ulteriormente una destabilizzazione nel modo in cui le persone della generazione precedente potessero comprendere questa cosa. Infatti non la comprendevano, cioè semplicemente non è che poi ci si sono mai impegnati più di tanto, insomma. Però ecco, io farei un attimo una cosa così, tipo, guarda, di che cosa si stiamo parlando? Oh, ragazzi, io la seconda sigla di Goldrick della serie del 1977, che è arrivata da noi nel 1979. Goldrick, allora, ragazzi, la prima sigla era UFO Robot, era questa. È vero, infatti, però io sono molto affezionato a questa. E poi, tra l'altro, secondo me è stata, in un certo momento è stata anche più suonata questa di quella originale, che dopo andiamo a sentire, insomma. Però ecco, c'è questa, non so perché, però mi è rimasta proprio impressa. Quell'altra sì, magari la cantavi, l'ho cantata mille volte allo stadio, magari riadattata ovviamente a seconda delle situazioni, insomma, però anche modificata, no? Anche, come posso dire, sbeffeggiata, no? Perché poi alla fine prendevi una canzone che in quel momento era orecchiabile e la trasformavi con testi più o meno, insomma, assortiti, e questo è un po'. Però ecco, vabbè, sì, io volevo mettere allora questa Goldrick vendette circa 700.000 copie. La prima UFO Robot sfondò il tetto del milione di copie vendute in Italia, raggiunse la quarta posizione dei singoli più venduti. Io ricordo più la precedente, UFO Robot si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole, ma per me quella è la canzone. Scritta da Albertelli, musica e arrangiamento di Vince Ventura. Forma un raggio missile con i circuiti di mille valvole. Beh, ragazzi, razzo missile, non raggio, razzo. Ma sì, vabbè, non rompe i coglioni. A Monte Rotondo arrivano diverse le canzoni a Monte Rotondo. Già solo in questa canzone sentite almeno 3, 4, 5 termini che all'epoca non esistevano nel nostro linguaggio. No, ma comunque possiamo dire che musicalmente erano pure belle, cioè nel senso. Se noi andiamo a vedere lo schiacciamento che c'è stato nell'era Cristina D'Avena in poi, no? In generale, nei cartoni animati. Parlando tardi, perché la Cristina D'Avena arriva anni 80 inoltrati. Quindi di tutti i primi anni 70 e i primi anni 80 era un florilegio di cantanti e canzoni e scrittori di musica che erano anche molto bravi, come Vince Tempera, che non fece solo UFO Robot, ma ne fece anche tante altre. Dopo magari ne sentiamo qualcun altro. Sì, che poi questa nelle discoteche spaccava, ragazzi. Cioè, quando iniziava il revival cartoni animati, pompava questa e Daltanius proprio. Ah, poi con Daltanius. E un ricordo personale, Ufo Robot allo stadio era il coro che dedicavamo a Diego Fuser, quindi insomma salutiamo il nostro capitano Diego Fuser di allora. Vai, vai. No, no, vai tu, cosa stavi dicendo? Salutiamo Diego Fuser. Sì, basta. No, vabbè, basta, era questo, sono un mio ricordo personale, c'era sto coro che facevamo Diego Fuser, insomma, così, una cosa così, una mia emozione di fanciullo allo stadio, insomma. Allora, atteniamo il fatto che, come ha giustamente ricordato Roberto, questa è il terzo robot della trilogia robotica di Gon Nagai, che fu quella che poi popolarizzò il genere robotico in Giappone. La trilogia di Gon Nagai in termini cronologici era Mazinga Z, il grande Mazinga e Goldrake. Quindi Goldrake è proprio l'ultimo, insomma. L'ultimo di questa trilogia, non l'ultimo degli ultimi, perché poi Gon Nagai fece anche Jig, Gon Nagai fece anche altri robot che dopo andiamo a vedere. Ma li fece per altri. Ecco, qua c'è da introdurre un'altra cosa fondamentale che molti non sanno, cioè queste serie robotiche in Giappone, cioè nella terra d'origine, non erano serie che nacquero semplicemente da un'idea del disegnatore così, perché doveva fare la serie robotica. Ma in realtà erano serie che venivano commissionate dai produttori di giocattoli, perché il grosso del business non finiva nella serie televisiva, ma nella vendita del merchandising e soprattutto dei giocattoli. La Toei, i miliardi di miliardi di miliardi di dollari, li ha fatti e li fa nella vendita dei giocattoli, dei modellini, e non delle serie televisive. Infatti, spesso il produttore obbligava magari l'ideatore della serie robotica dell'anime a modifiche o a seguire determinati schemi perché doveva vendere il modellino, quindi doveva vendere il giocattolo. Questo è il caso, per esempio, molto eclatante della seconda serie che è arrivata in Italia, robotica, che per alcuni fu addirittura la prima, una minoranza devo dire. Perché mentre nel 1978, il 4 aprile, la Rai trasmise Goldrake, che fece subito degli ascolti della Madonna, a marzo del 78, scusate, no, sì, dal 1978, non so il mese esatto, comunque, in varie reti locali, arrivò un robot che si chiamava Danguard, che fu il secondo robot dal punto di vista cronologico che arrivò in Italia. Ah sì? Non lo sapevo. Non lo sa quasi nessuno, perché? Perché arrivando sulle reti locali, le reti locali avevano una diffusione a macchia di leopardo in Italia, non era una diffusione, cioè se usciva una cosa su Rai 2 era, o su Rai 1 era per tutti la stessa cosa, cioè arrivava in tutta Italia allo stesso momento. Non esistendo televisioni locali nazionali, che arrivarono solo con Berlusconi qualche anno dopo, con la nascita della Fininvest e quindi Canale 5, che fece il famoso trucchetto che vi ricordate tutti, cioè il comprare televisioni locali sparse in tutta Italia e mandare contemporaneamente gli Ampex in tutta Italia in contemporanea a simulare una trasmissione sul territorio nazionale, cosa che era vietata per la legge in quel periodo. Infatti poi ci fu Craxi. Vabbè, quello che praticamente in America chiamavano i sindacati, cioè no, in syndicate praticamente tutte le non era proprio un syndicate, perché il syndicate era in America, cioè ti davano gli stessi programmi ma poi ognuno lo trasmetteva quando voleva, cioè avevano programmazioni differenti, anche perché in America ci sono anche fusi orari diversi. E in Italia invece non era proprio un syndicate, lui le acquistate, poi spediva le stesse cassette a tutti prima e le facevano partire contemporaneamente, quindi tu vedevi le stesse trasmissioni in tutta Italia, ma in realtà venivano trasmesse dalle varie reti locali. Certo. Era una simulazione di rete nazionale quando non si poteva avere una rete nazionale. E questa che fu l'idea di Berlusconi, che poi diede vita a tutto quello che successe. Ma pure Danguard era di Gon Nagai, no? No, Danguard non era di Gon Nagai, ma era di un altro grande maestro, cioè Leiji Matsumoto. Matsumoto è il creatore che noi conosciamo di Harlock, Capitan Harlock, che arrivò sulla Rai, però arrivò dopo, mentre Harlock era più vecchio, l'aveva già fatto. Ad Anguard fu una rete robotica, fu una, un cartone robotico che fu commissionato a Matsumoto, che in Giappone uscì dopo Harlock, ma no, da noi arrivò prima, ok? Ma nessuno sapeva che era lo stesso autore, l'abbiamo scoperto anni dopo. Ma la cosa divertente da dire in questo Anguard è che Matsumoto odiava i robottoni, cioè non li voleva fare. Infatti le sue serie più famose non hanno robottoni giganti dentro. Sono di fantascienza, ma non c'hanno robottoni. Danguard fu costretto a metterci dentro Danguard dalla Toei, perché gli diede i soldi dicendo: ti do i soldi per fare una serie, ti pago, ma tu ci devi mettere dentro un robottone, ok? E quindi fece questa serie di Danguard. Allora, dato che c'era il mutuo, di fronte al mutuo, giustamente ha detto: vabbè, famo se sto Danguard, che io non l'ho mai sentito, devo dire la verità, non l'ho mai sentito. Ed è bellissimo. Molto bellissimo. Oltretutto c'è un fatto interessante, la sigla è anche molto bella. Bellissimo, se la metti, anche la sigla, sì. Metti l'inizio magari della sigla di Dunder. Io sono pronto come un disc jockey d'altri tempi. Sentite la voce della cantante, che si chiamava Veronica. La bomba. Veronica, in realtà, è Veronica Vivelli. Questa canzone è stata cantata da una giovanissima Veronica Pivetti. Ma va! I testi sono di Mario Biondi e la musica di Gianfranco Tadini. Infatti il disco è molto bello, devo dire, cioè la canzone è bella. Ma anche la sigla finale, cos'era? Contatto e va, è bellissima. Esatto, sempre cantata da Veronica Pivetti, scritta da Mario Biondi e musica di Gianfranco Tadini. Vabbè, magari dopo me lo vado a vedere su YouTube e sicuramente magari l'ho anche visto. Ma adesso però su Dubiati non me lo ricordo. Che mi piaceva molto di questo è che io non l'ho, probabilmente non ho visto la primissima uscita. Immagino che l'ho visto nelle repliche che sono state fatte. Nelle repliche, la cosa bella è che il Danguard dal principio non funzionava tanto bene. Ah, allora ho capito qual è. Sì, ok, grande. Dovevano fare la base dell'astronave che lo portava, che non funzionava. Dovevano arrivare al decimo pianeta perché l'avevano trovato. Dovevano arrivare al decimo pianeta, ma la particolarità di questo affare è che c'era un satellizzatore, cioè che era un robot che si trasformava in Danguard, solamente che all'inizio praticamente non per una serie di problemi tecnici non riuscivano. E riuscirà il pilota a farlo solamente grazie a un faticosissimo addestramento che farà un tizio con una maschera di acciaio sul volto, che poi si scoprirà essere suo padre, con una, ovviamente alla Star Wars maniera. Parte dalla Star Wars, esatto. Io quindi sono tuo padre. Non era quelli di cui parliamo sono tutti, Carlo magari ce lo dirà, i cosiddetti super robot, ok? Quindi indistruttibili e quant'altro. Questo è forse il primo che comincia a essere una via di mezzo fra i cosiddetti super robot e i real robot. Introduceva una sorta di realismo, ecco, più che realismo. Super robot, diciamo che dai robot, quelli robottoni, si passava al robot realistico, di cui dopo parleremo di Gundam nel dettaglio. Pier G dice: questa la cantavo a mio concittadino, dici quale? Perché è passato un po' di tempo da quando ho letto sto messaggio. È stato prima Goldrake. C'è anche Actarus in chat, salutiamo Actarus. No, Danguard di Leiji Matsumoto è importante perché diede proprio la storia, se voi la guardaste il cartone, diciamo, è molto più incentrata sui personaggi, l'interazione dei personaggi, appunto la storia padre e figlio, il suo allenamento. Cioè, il robot è sullo sfondo, è qualcosa che infatti non funziona neanche, appare poi dopo svariati episodi. Questo perché proprio lui era stato costretto a metterci dentro il robot. Non ci sono gli alieni. Non ci sono gli alieni. È molto diversa come serie, è molto bella. Comunque, andiamo avanti, perché se no finiamo più. Allora, no, beh, però adesso che me l'hai ricordato, un po' vagamente non ricordo, ma dopo me lo vado a rispizzare su YouTube. E passiamo all'anno successivo. Ecco, questo succede nel 78. Nel 78 sono solo questi due che arrivano, però tutti guardiamo Goldrake. Qualcuno guarda Danguard, molti recupereranno Danguard poi nelle repliche. Forse dopo, sì, esatto. Dopo. Nel 79 le televisioni private, le varie reti locali in giro per l'Italia vedono sto mega successo incredibile, gigantesco di Goldrake E allora dicono, cacchio, au, dicono au, au, che, come hai detto tu, copiano la Rai, cioè vanno in Giappone, siccome non possono andare dalla Toei, vanno dai concorrenti della Toei. E vanno soprattutto a prendere dal concorrente della Toei, perché cosa succede? In quel periodo Gonagai, quindi stiamo parlando del 1978-79, aveva litigato con la Toei per una storia di una serie di cui dopo parleremo, che l'aveva pensata lui e l'hanno fatta realizzare ad altri e non l'hanno chiamato. C'è non andato, allora lui si è incazzato e è andato a lavorare con la Nakajima, con altre, con la... come si chiamava? Vabbè dai, adesso una domanda, Carlo, a che età avevano questi personaggi di cui stai parlando in quel periodo circa? Erano sulla 30-40 più o meno. Ah, non erano dei ragazzini giovani? No, no, già, adulti. No, ma che il fenomeno manga, il fenomeno manga anime o robe genere in Giappone c'ha origini. Ciao, come ho detto prima, dal 63. Che sì, già da inizio degli anni 60. Quindi, insomma, alla fine è già una cosa nel loro tessuto proprio in generale. Loro era già consolidata. Diciamo che Goldrick dà la scusa per, da noi per arrivare. Quindi, cosa succede? Nel 79 inizia la prima rincorsa, e quindi già le TV private cosa vanno a beccare? Vanno a beccare la serie che fece Gonagai. Quando se ne andò dalla Toei, andò da un'altra parte e fece Gig Robot d'acciaio. Ok? Quindi arriva da noi Gig Robot d'acciaio. Sigla? Vai con la sigla perché è fondamentale. Questo è proprio un brano però di musica anni 60, sembra. Allora, il brano, qui ci sono un po' delle leggende su sto brano. Il brano è del 75, perché questa è la musica originale giapponese, la sigla giapponese, che è stata semplicemente tradotta e musicata in italiano. Posso dire una cosa? Che voi sapete che i giapponesi erano dei fan scatenati del progressive italiano, no? Cioè della PFM, tutte quelle, insomma. Tant'è che di loro hanno fatto diversi concerti a Tokyo e anzi ci hanno fatto, penso, un live anche. E molte di queste canzoni, secondo me, risentono molto di quell'epoca, ovviamente, inevitabilmente. Ma non era questa che c'era la leggenda che era Piero Velù che la cantava, no? Sì, sì, la leggenda dalla voce, ma non quella è una leggenda, è rimasta una leggenda e fine, si sa che non era lui. Il cantante si chiama Fogus. Questo, la verità che ci fu su questa sigla fu questa, che la sigla, anzi, al contrario di Goldrick, che fu chiamato, vinse Tempera eccetera, fecero proprio una produzione italiana della canzone, qua invece presero semplicemente la sigla giapponese e chiesero a cantanti poco famosi come era Fogus e altri di rimusicarla e ricantarla in italiano. Nessuno di loro che la fece, né tantomeno la RCA che la pubblicò, si aspettò il successo del disco del 45 giri che pubblicarono. Infatti il 45 giri uscì in maniera quasi anonima, addirittura sbagliarono nella copertina, ci misero uno dei mostri nemici di Gig, uno con la faccia di pietra e con le corna dietro, che non era Gig. Sopra ci scrissero Gig Robot d'acciaio e uscì il 45 giri che non aveva neanche Gig sopra sulla copertina del disco, non c'era. Sono belle cose. Eppure lo vendettero subito, cioè un miliardo di copie immediatamente. Finivano nei mangiadischi. Quindi, a parte iniziare a fare stampe, comunque, ragazzi, mo' al di là di tutto, erano belle come canzoni, cioè erano belle proprio pure da ascoltare. Certo. Noi hanno formato la nostra cultura musicale queste sigle. E iniziarono a fare ristampe su ristampe, ma non solo, questo diede là a gente più organizzata, tipo i Super Robots, che fecero la sigla del grande Mazinga, perché sempre in quell'anno, nel 79, cosa successe? Siccome la Rai, accortasi del grande successo questo arriva dopo. Il grande Mazinga fu l'altro grande successo che fu acquistato dalle TV locali e regionali italiane nel 79. Il grande Mazinga, scusate, perché non stiamo parlando di Mazinga Z, che era il primo. oltre al Gigrobo d'acciaio, qualcuno riuscì a comprare anche i diritti del grande Mazinga, e anche lì fu trasmesso su tutte le televisioni locali e regionali italiane nel 1979. Purtroppo il grande Mazinga sigla... me manca come sigla, non ce l'ho. Non ce l'ho. Sigla grande Mazinga, dovresti averla, te l'ho data. No, grande io... Mazinga, cioè, Mazinga, cerca Mazinga. Cioè, Mazinga è un Mazinga Z. Mazinga, ah, Mazinga, allora, il grande, Mazinga. È il grande Mazinga. Mazinga è il grande Mazinga, vabbè, la stessa okay. cosa. Mazinga, quello lì, esatto. Oh, vedi che poi le sa le cose. Nel 79 per forza, siamo ancora del periodo in quando era piccolo, nel 79. Avevo 14 anni, Mazinga. Questa è la canzone dove Migliacci, Franco Migliacci, che fece i testi, è anche lui quello che esclama Mazinga nella sigla. Poi viene cantata invece dai Super Robots, ok? I Super Robots era un gruppo un pochino più organizzato, infatti nella disco 45 giri che esce nel 79 Grande Mazinga, nel lato A c'era il Grande Mazinga, questa. Nel lato B c'era una cover di Gig, con però il disegno di Gig. E quindi vendettero un casino perché c'avevano sul lato A Mazinga e sul lato B Gigrobo d'acciaio. Oddio, forse me la ricordo sta cosa. Che non era la sigla originale di Focus, era leggermente diversa. Infatti io a casa fui deluso perché misi dentro quel disco del mio magliadischi. Sì, non è la sigla. Ma tu mi stai accendendo dei neuroni incredibili. Comunque permettimi un attimo, perché veramente, cioè, poi quando si accendono i neuroni è veramente qualcosa di incredibile. Però ricordate una cosa, che su questa canzone io e Tomaiuolo facevamo venire giù le discoteche, dimmi un po', Tomaiuolo. A voglia. Perché qui no, scoppiava il casino proprio, quindi che tutti a cantare, tutti ubriachi. Guarda che allora la qualità di, ma praticamente tutte quelle che io ricordo prima dell'avvento tragico, secondo me, di Cristina D'Avena, mamma mia, in termini musicali, erano, io non ne ricordo davvero poche che non mi piacevano, erano tutte belle, anche quelle più poetiche, sì, quelle... sì. Secondo solo, il secondo solo. Sentiamo il ritornello, perché veramente, cioè, raga. Vabbè, ma ci mette 30 anni a partire il ritornello, però mo arriva. Qui raggi gamma. E vabbè, un modo per tornare anche fanciulli con sta roba. Comunque, non so se avete notato queste canzoni che hanno un sound tutto strano, hanno le voci che sono proprio tipo a volume altissimo con un riverbero allucinante. Era tutta la sonorità. Vabbè, erano gli anni 70, ragazzi. Ma le canzoni degli anni 70 comunque non avevano le canzoni, diciamo, sigle di cartoni animati, della canzone classica, non avevano questi suoni così. Qua devono aver trovato anche qualche tecnica più per le consideravano, secondo me quando le hanno fatte le consideravano delle musichette così, non le hanno fatte pensando a qualcosa di, facciamo un brano musicale serio, questi sono andati a suonare così a una canzone per un cartone. No, secondo me c'era secondo me c'era sperimentazione proprio anche dal punto di vista del sound, come dici tu, cioè chiaramente facevano cose che magari su una hit non avrebbero fatto. Però per questo invece valeva il fatto che c'era molta sperimentazione. E poi non solo, devi considerare che erano comunque professionisti. Quindi è vero quello che dici, magari la facevano con la mano legata dietro, ma erano comunque produzioni di gente che facevano musica ad alti livelli. Sì, non stiamo parlando di gente che poi era... Comunque Biergi ci dice che era Goldrake, quello cantato dal suo concittadino. Michela dice che gli sembra del Style Cube. Vabbè, questo lo capisce chi è di Roma, chiaramente. E secondo Biergi la più bella è quella di Bebel Junior, ma mo magari ci arriviamo, insomma, dopo ci arriviamo. Di robot sì, ma ce n'erano tanti. Ce ne sono tante. Allora, altre due cose su Gig, due curiosità. Una, la sigla, come ho detto, grazie a Danil realtà... che ci seguirà poi in podcast, recupero, tanto domani mattina già lo trovi nel feed. Comunque Danil è R. Danil Olivav, che sarebbe il robot di Asimov. Vabbè, ho citazione troppo colta. Questa è troppo raffinata. Esatto, questa è troppo raffinata. Che poi, tra l'altro, esce la serie. Attenzione, vabbè. Comunque, in Gigrobo d'acciaio, la sigla originale, poi a parte che diventare un cult in Italia, famosissimo, viene utilizzata anche dalla Renault per fare una pubblicità della Clio. se non ricordo male, cioè di una macchina da Renault come colonna sonora alla sigla di Jig in versione originale giapponese. Altra curiosità, il giocattolo di Jig fece un successo della Madonna in Giappone. Ma cioè, ti posso fare una domanda? Scusa, permettimi, so che ti sto, ma il giocattolo di Jig arrivò in Italia sotto altra forma? È quello che ti sto dicendo. Ah, ok, allora, va bene, ok. Stavo dicendo questo. Il giocattolo di Jig in Giappone ebbe un successo della Madonna perché era un giocattolo magnetico, voi ve lo ricordate, era un magnetico con i pezzi che si agganciavano, poi staccavi, si attaccava il cavallo, gli staccavi le braccia, gli mettevi le trivelle, insomma tutta questa cosa qua. Sì. Questo fighissimo giocattolo in realtà in Italia non arrivò, o meglio. Meglio, arrivò per vie traverse. Arrivò, ma per vie traverse. Perché io ce l'avevo. Ce l'avevamo tutti i micronauti, i micronauti. Garda e Force Commander, cioè ma che belli, ma che belli. Ma noi sapevamo che era Jig, ma cosa successe? Come mai successe questo? In Giappone il giocattolo aveva un successo della Madonna. In America una società che si chiamava Mego aveva forti connessioni con l'azienda produttrice di Jig, importava già tutti i giocattoli che venivano prodotti da questa azienda giapponese in America, negli Stati Uniti. E l'azienda giapponese gli disse: guarda, abbiamo questo Jig che sta avendo un successo della Madonna. Però gli americani in America, ricordiamo, tutto quello che stiamo dicendo adesso non avvenne. Cioè noi italiani, un po' i francesi e un po' gli spagnoli, ma soprattutto noi italiani, come ho detto, perché noi fummo quelli che importarono di più in assoluto, fummo la prima generazione degli anni 70 ad avere il contatto con gli anime, i manga e la cultura giapponese dei cartoni animati e dei fumetti giapponesi. Nel resto del mondo questo arrivò anni e anni dopo. Infatti da questo punto di vista noi siamo avvantaggiati, nel senso che abbiamo vissuto l'invasione manga giapponese molto prima degli Stati Uniti, molto prima anche di tante altre nazioni nel resto del mondo e altre nazioni europee. Dicevo, negli Stati Uniti, quindi, questo produttore di giocattoli, l'amico, vede il giocattolo di Jig, dice: sì, bello, ma chi cazzo è Jig? Cioè, qua da noi non lo conosce nessuno. Se io esco con questa cosa, con tutto Jig, mi guardano e mi dicono: che cosa stai, cosa mi vuoi vendere? In America, in quel periodo, il successo più grande in assoluto di giocattoli era dato dal merchandising di Star Wars, infatti, Guerre Stellari. Infatti, quella fu la Barbie. Quella fu la doppia combo fatale, esatto. Un po' infame. Quindi cosa successo? Lo disse: va bene, dammi gli stampi, io li rifaccio una serie che mi invento io, che copia un po' Star Wars, e vedrai che abbiamo successo. E infatti fece un successo della Madonna, i Micronauti, anche negli Stati Uniti, dove uscirono però come Force Commander e Baron Karza, cioè l'omino che copiava Nero, che copiava Darth Vader, e l'omino bianco che copiava, sì, io c'avevo quello bianco, poi c'era pure quello rosso, se non sbaglio. Quali sono state produzioni italiane? Poi ok, ok. Allora, cosa è successo? Che siccome questi due poi ebbero un successo della Madonna, allora la Mego, che aveva anche rivenditori in Italia, iniziò a vendere quei giocattoli anche in Italia. Da noi furono un successo anche noi della Madonna, ma non perché ci vedevamo Star Wars, che pur da noi aveva successo, ma perché ci vedevamo Jig. Perché c'era Jig. Andavamo, esatto, a comprarlo e dicevamo: ma quello è il corpo di Jig, è magnetico, Jig, come Jig, è Jig. Esatto, esatto. Però c'aveva la faccia nera e la faccia bianca, il corpo bianco e il corpo nero, ma noi ci giocavamo come se fosse Jig. Esatto. Quindi questa è stata la combo micidiale. Abbiamo avuto il giocattolo dagli Stati Uniti e il cartone dal Giappone. E com'era il cavallo Megas? Megas era il nome, sì, del cavallo. Pegasus era il nome originale del cavallo di Jig. E questo poi io in particolare, ma tanti altri l'hanno scoperto 20 anni dopo. Certo. Quando però non c'era Miva, purtroppo. Lanciami i componenti Miva, mamma, sì, mia, con il monitor in mezzo alle gambe. Però posso dire, dato che non ne abbiamo parlato, Jig, cioè, secondo me, allora, affettivamente è un po' come dire, no, il primo amore non si scorda mai, quindi Goldrake, secondo me, avrà sempre una posizione particolare. Però secondo me Jig è stato più bello da un certo punto di vista, perché il dramma c'era su tutti, però il dramma dietro, cioè, era più realista, era più comprensibile il personaggio. Però dai, la storia era abbastanza, al di là di Miva, che senz'altro aveva un perché, ma Beh, però dai, la, il conflitto col padre, il padre che è morto ma c'è, cioè nel senso, capito? Dentro il, dentro, considera che anche, poi c'è anche da questo da dire, che poi è un tema che affronterò dopo, è che Jig era una serie più nuova di tutte le altre che avevamo visto, era più nuova di Golder che più nuova del grande Mazinga che è uscito in contemporanea, perché era successiva in Giappone. Era Jig è arrivato non in contemporanea, perché comunque era una serie che è finita nel 76, però in Italia è arrivata come se, cioè tu non te ne accorgevi in maniera conscia, ma in maniera inconscia ti accorgevi che quella serie era più nuova, cioè affrontava il tema in maniera migliore rispetto a Mazinga e rispetto a Golder, che erano più vecchi. Addirittura il grande Mazinga era anche precedente a Golder, quindi a molti non piacque, perché eravamo già abituati a Golder e a Jig, che erano serie successive. È un po' l'effetto che fa quando i ragazzini vedono, non so, posso farti degli esempi su Star Trek, per esempio, che chi ha visto le serie nuove o che è partito da Next Generation, sì, magari guarda il primo Star Trek, ma capisce che è vecchio, non gli dà lo stesso valore che invece gli dà chi è partito dal primo, dalla TOS. È vero. Però tieni presente che è un po' più fantasy la storia, cioè la regina Imika, la campana di bronzo miniaturizzata. Sì, ma infatti questo vale di più per altre serie che dico dopo. Però diciamo che poi tra l'altro riprende a piene mani da tutte le leggende giapponesi che poi ci hanno riproposto 50 milioni di volte, insomma, alla fine comunque vabbè. Al di là di questo, no, però cioè, nel senso, noi vediamo anche l'aspetto positivo, è comunque legato al fatto che noi abbiamo avuto un impatto con quella cultura in quel momento, con quei prodotti, no? Poi dopo, esatto. Vabbè, insomma, i guanti gialli di coso di esatto, i guanti con sulle nocche di metallo che si sbattevano, la moto con le gambe che si infilavano dentro alla io mi sono sempre domandato ma sta moto, esatto. Si rompe sempre tutti gli episodi, ne compravo che poi sono tutti uguali, no, con l'alettoni, no? E poi lui nella prima puntata, cioè lui a un certo punto dice c'è solo le rocce arrivano, cioè, che poi tra l'altro ha linkato Tomaiuolo proprio il pezzo di video proprio questi giorni, insomma, non so se ieri stamattina, trasformazione, sì. Che lui ancora non sapeva manco quello che doveva fare fondamentalmente, però gli partiva la capo perché lui era quello ribelle, no? Che poi se vai a vedere, insomma, tutti questi personaggi, da Actarus a come si chiamava, Koji Kabuto, quell'altro di Mazinga, cioè ognuno aveva la sua personalità e ognuno a modo suo ti poteva potenzialmente stare sul cazzo per qualche motivo, perché poi fondamentalmente no, ma poi tutti fanno le stesse cose. Se voi ci fate caso, tutti, questo anche Gundam e altri, hanno la puntata in cui sono troppo giovani, si stancano della guerra e vogliono ritirarsi, poi alla fine della puntata tutti stanno per morire, allora hanno il ripensamento e tornano indietro, cioè molti dei temi alla fine si ripetono, come ovvio che sia, stiamo parlando di produzioni comunque seriali. Però vabbè, dai, torniamo in focus. Allora, un'altra curiosità interessante sul grande Mazinga è quello che si riallaccia a quello che stavo dicendo prima, cioè che l'Italia fu la prima nazione esposta dopo il Giappone a queste produzioni di anime e di manga, perché grazie al grande Mazinga i fratelli Fabbri Editori nel novembre del 1979 escono con il fumetto del grande Mazinga, che non è come è successo dopo, fumetti ridisegnati in Italia sul tema di Mazinga, di Golder, che di robot da disegnatori italiani. Era quello originale. No. Si tratta proprio del manga originale tradotto in italiano ed è importantissimo perché è il primo manga tradotto e pubblicato in tutta Europa. E succede grazie al grande Mazinga e fratelli Fabbri Editori nel novembre del 1979. Sempre nel 1979 l'ultimo robot che arriva in televisione, come abbiamo detto nel 78 ne arrivano due, nel 79 ne arrivano tre, che sono Gig Robot d'acciaio, il grande Mazinga, e il terzo è Gaiking, il robot guerriero. Gaiking, per farvelo ricordare, è quello con il drago spaziale, le corna giganti e quella faccia di drago gialla sul petto, che era la testa del drago spaziale che si stacca, sì, sì. E diventa, ve lo ricordate? Ok. Sì. Il caso di rimuoverlo, ma me lo ricordo purtroppo. Questo qua è proprio Gaiking, è quello che causa il litigio tra Gonagai e la Toei, perché era un'idea di Gonagai che invece venne tenuto fuori dal progetto dalla Toei e causò l'allontanamento di Gonagai dalla Toei per un bel po'. La serie diciamo che non è proprio qualcosa di epico da ricordare, la sigla sì, imbarazzante. La sigla però, raga, questa è progressive proprio. La sigla è bellissima. It takes me higher. Esatto, it takes me higher. Cioè, per ritornare a quello che diceva prima da Davide, sicuramente a livello di modo di cantare, di approcciarsi, l'effettistica, quindi l'esagerazione, l'esasperazione, sicuramente c'è, no? Ma è anche un modo per sperimentare più liberamente, no? Più giocosamente in questo senso, e escono fuori delle robe che comunque oggi a 40 anni di distanza, e continuo a dire che è difficile dire che comunque negli anni 70 non ci sia stata una grande produzione artistica in generale, perché stati anni veramente floridi da quel punto di vista. Sì, è vero, però secondo me qua c'è anche il fattore affettivo e anche il fattore, come dice sempre Carlo, che queste canzoni appena le senti ci ricordano quando eravamo ragazzi. Se la faccio sentire mio figlio mi dice che merda di canzone. Vabbè, ma se probabilmente dice pure se gli fai sentire le Zeppelin, capito? Quindi è vabbè, certo. Quindi non è che lo puoi raffrontare a una questione di qualità, è una questione di esperienza anche dal punto di vista culturale, abitudine nel sentire determinate complessità piuttosto che no. Però appena senti le prime tre note di una di queste canzoni subito sei trasportato là. Sì, però è vero, però è vero pure che io per esempio questa non me la ricordo, però la sento adesso e comunque è un cazzo di brano della Madonna, cioè nel senso. E adesso faccio fatica a sentirla perché abbiamo un po' l'audio, come sai. Vabbè, certo. Però la sento un po' più elettronica questa. Ho sentito il vocoder, l'ho sentito sì, un sì. po'. Mentre invece questo... le altre canzoni sono tutte fatte con strumenti suonati a manina e il giro di basso. Fa qualche effettino così, un po' tipo sai, effetto spaziale. Così, ma non è suonato il sì, diciamo che cioè, è tutto suonato chitarra, questa batteria, che fu composta. Diciamo che ammicca molto alla disco composta. Questa, però in generale comunque c'è un bel giro del basso, c'è comunque un'elaborazione dietro. Vai, scusa Roberto. Questa non fu composta, credo, per il cartone animato, fu semplicemente selezionata e messa, però è bella. Molto bella. Comunque, abbiamo appena detto, 1978 ne escono due, 1979 ne arrivano tre in Italia, ovviamente. Successo, successo, successo, soldi, soldi, soldi, soldi, dischi venduti, tanti, tanti, tanti. 1980, boom! Cioè, 1980, andiamo a saccheggiare il Giappone. Noi viviamo in Italia un fenomeno che è quello che dicevo prima che ci ha formato, cioè abbiamo un overdose di produzioni giapponesi in generale e produzioni giapponesi robotiche in particolare, dove nel 1980 praticamente prendiamo quasi 20 anni di produzione giapponese e la schiacciamo in un anno in Italia. Però succedono alcuni grandi errori. Il primo grande errore lo fa la Rai, perché forte del successo di Goldrake, vedendo che le televisioni private iniziano a importare, a trasmettere altri cartoni, dice no, io adesso sulla rete ammiraglia, perché Goldrake, ricordiamo, era su Rai 2, dice io adesso su Rai 1 ci metto il meglio del meglio. Quindi cosa fa? Fa l'errore della vita, cioè va in Giappone dalla Toei e gli dice qual è il robot più famoso, più bello, più che piace di più a tutti e mi devi dare quello. E loro tutti in Giappone dicono vabbè, ma Mazinga Z. Perché? Perché in Giappone Mazinga Z è stato il primo a introdurre questo genere di successo, è stato il primo ad essere fatto da Gonagai. Peccato che Mazinga Z è una serie del 1972 in Giappone. E noi in Italia stavamo già, a parte Goldrake che era del 75, l'abbiamo vista nel 78, ma poi stiamo già vedendo serie come appunto Jig, come il grande Mazinga che era il seguito di Mazinga Z, come Gaiki Robo Magnetico, come Danguard, cioè stiamo già abituati, il pubblico è già abituato a serie evolute sull'argomento. La Rai sulla Rai 1 fa uscire Mazinga Z, che è una serie più vecchia di tutte. Quindi ci si accorge innanzitutto, i ragazzi si accorgono, la guardano e dicono ma è brutta, perché era disegnata peggio, certo, beh. Perché era, la storia era ingenua rispetto a quelle che sono venute dopo. È ovvio che in Giappone era la serie che piaceva di più, ma perché era quella che era arrivata per prima. non perché fosse la più bella di tutte. E quindi la Rai 1 prende la travata. Infatti Mazinga Z, a parte che esce con una sigla che adesso sentiamo, che fa morire da ridere, ha un testo che si è analizzato, lasciamo perdere, a 1000 decibel. Zinger. Perché questa qua è uno, sembra uno straniero che canta. Sì. La finta. Falsità. Che sembra sempre musica degli anni 60, uno stile anni 60. Sì, beh, questa è un po' bandiera gialla, cioè, esatto, senso... esatto. Infatti sbagliano tutto nei Rai 1, in Rai con questa, sbagliano veramente tutto. Infatti addirittura i ragazzi, noi, io me lo ricordo bene, guardiamo Mazinga Z su Rai 1, diciamo... Oh, a me non mi piaceva, infatti... Ma questo è più vecchio del grande Mazinga, che infatti stavamo già vedendo sulle TV private. Già ci eravamo accorti che il grande Mazinga che c'era sulle TV private era il seguito di Mazinga Z, che stavamo vedendo adesso sulla Rai dopo, che noi stavamo vedendo prima il grande Mazinga. Ok, e Goldrick era addirittura il terzo, era quello che veniva ancora dopo, quindi in realtà questa sembra una roba già vecchissima. E infatti in Italia ne furono addirittura doppiate 52 puntate su 92, e a un certo punto la serie lascia stare perché non la guardava nessuno. Infatti da questo momento i robot spariscono dalla Rai. Al contrario invece parte il grandissimo successo sulle reti locali, perché invece le reti locali vanno ancora di più. Non solo, cosa succede nel 1980? Succede l'irreparabile. Cioè che la Globo TV, che era una di quelle che distribuiva cartoni eccetera tra il circuito di TV private, dice di comprare una serie giapponese molto bella, che invece non compra. Questa l'abbiamo pagata per 30 anni sta storia. L'abbiamo pagata cara, ed è Gundam. Gundam... ragazzi, cioè, un attimo di silenzio. Cioè, ragazzi, qui l'emozione vera. Che poi dopo tutti i nomi non c'entrano niente, tutto un sacco di cose, però vabbè. Eccoci, siamo amici tuoi e io sono Peter. E anche questa di sessantissima. E stanno a pensare a te, capito? Gundam. Qui però posso dire una cosa io, e poi dopo vai tu come, poi sentiamo anche Roberto e Davide, magari se c'hanno cose da dire. Però in generale, Gundam è, cioè, secondo me, molto dell'affezione di noi di quell'epoca, perché Gundam portava una storia sci-fi credibile. Cioè, diciamo, quel sci-fi che tu leggevi sui romanzi, poi fondamentalmente, no? E quei romanzi che cominciavi a esplorare, quel tipo di fantascienza un po' più articolata, dove c'era un mondo, c'era una politica dietro, diciamo così, no? Quindi era affascinante. Beh, per questo. Però, scusa, finisco il mio pensiero. Però, allo stesso tempo, e questo mi è successo anche con Capitan Harlock, se vai a ripescare oggi, cioè al di là dell'affezione, ti rendi conto che tutto quel carisma che ci aveva, ce l'aveva perché eri tu un ragazzino ed erano gli anni 70, gli anni 80, insomma, perché oggi chiaramente la vedi e dici, ma cioè veramente se guardavamo sta cazzata, insomma. Beh, ma non tanto Gundam comunque. Guarda che secondo me su Gundam è un po' meno, se te la puoi riguardare. Gundam introduce, scusami Roberto, ti anticipo un attimo e poi ti lascio, quello che dicevi tu, cioè che diceva prima Roberto, il fenomeno del real robot. Cioè introduce un inizio di realismo all'interno di queste storie. Sì, vabbè, tutto questo che ci ha attirato. Tomino, l'inventore di Gundam, è veramente un innovatore da quel punto di vista. L'autore di Gundam, Tomino, in questo caso abbandona buona parte degli stereotipi del genere dei super robottoni e quindi introduce questo nuovo filone. Il mecha design è molto bello, molto curato, il disegno molto, è molto, sì. Fu affidato al disegnatore di Daitan 3, che era precedente, ma poi noi la vediamo dopo. le macchine, cioè i robot iniziano a somigliare a queste macchine da guerra, eccetera. Sappiamo tutti che era ispirato a Fanteria dello Spazio di Heinlein, giusto per parlare di come mai, tu dicevi, introduce questi temi di fantascienza, perché proprio la storia di Gundam è stata ispirata dalla serie di Fanteria dello Spazio di Heinlein, ok? E quindi il mobile suit, cioè il vestito del robot, diventa un vestito gigante, un'armatura gigante che viene utilizzata per combattere. Quello che dico, voglio specificare prima di dare la parola a Roberto, vai avanti tu, è che qui è importantissima la contemporaneità. Cioè, noi stiamo vedendo nel febbraio del 1980 una serie che in Giappone era finita a gennaio del 1980. Quindi era praticamente contemporanea. Quasi contemporanea, cioè, tra il Giappone e l'Italia. Quindi anche questo ne decreta il successo. Il contrario di Mazinga Z, che ho detto prima, mentre Mazinga Z era una serie vecchissima che noi vediamo nell'80, Gundam è una serie nuovissima che noi vediamo nell'80. E ci accorgiamo anche di questa modernità rispetto a tutto il resto che stavamo guardando in quel momento. Vai, Roberto. Sì, no, la cosa che volevo far notare circa Gundam è che introduce tutta una serie grossa di innovazioni, ed è per quello che secondo me, fra quelle di cui parliamo oggi, probabilmente è quella che è invecchiata di meno, con qualche ingenuità di cui magari parliamo, però in generale la storia, i disegni, i protagonisti sono molto innovativi e mi viene ancora da dire moderni. Se noi pensiamo il mobile suit stesso, quindi non c'è il robot come il super robot, come ha giustamente detto Carlo, che era quasi un'entità da supereroe in sé, è un'arma, un equipaggiamento, se vogliamo, che migliora, che si rompe e che ha bisogno di munizioni, le munizioni finiscono, finisce energia. Gundam non vola, tanto per dirne una, e non è poco. La storia, anche qui non ci sono gli alieni, si parla di una terra del futuro, dove c'è stata un'emigrazione su questi side, su queste isole spaziali, sparse un po' dappertutto, in cui una di queste dichiara la sua secessione con delle armi nuove, che appunto sono questi mobile suit, comincia poi ad attaccare le altre. È evidente anche nei simboli il riferimento che in Giappone spesso, peraltro, ai nazisti, tanto per dirne una. Beh sì, al nazifascismo in generale, sì, comunque sì. Con queste battaglie che sono per l'epoca bellissime, a me ricordano quelle della nuova versione che hanno fatto, che è molto bella, di Yamato, di cui non parliamo oggi perché sennò facciamo veramente una settimana, quindi da questo punto di vista è anche molto bella. Ha una serie di spunti, non tutti che vengono sfruttati nella prima serie lo verranno poi in seguito. Ad esempio Peter Ray, o Amuro come lo vogliamo chiamare, è un new type. Quindi si comincia a parlare in questo caso di un'evoluzione genetica di alcune persone che sono nate al di fuori della Terra. Quindi ci sono anche una serie complessa di relazioni personali. Torniamo a quello che ha detto prima Carlo. Non tutti i cattivi sono cattivi. Esatto. Pensiamo a Scia della Cometa Rossa, che è un eroe, se vogliamo. È molto affascinante. E lo stesso Peter Ray o altri personaggi a volte, come posso dire, vanno un po' qua un po' là, perché non sanno bene da che parte stanno, se così vogliamo vedere. Quindi ha una serie, secondo me, importante di innovazioni, di cose moderne, che per quanto riguarda me, io l'ho rivista di recente, mi è piaciuta, ha delle ingenuità, per carità, sulla base bianca ci sono tutti i ragazzini, c'è la palla, c'è il dottore con la bolla al naso, c'è l'infermiera con le tette grosse, che sono, se vogliamo, una cosa un po' giapponese, della parte ironica e così, però tolto quello, secondo me è una serie veramente bella che tratta male la guerra e sofferenza in questa serie, ma è sofferenza vera, si vedono persone che muoiono e si vede che è male, non come pensate alle altre serie TV. Non abbiamo ancora parlato di Titan 3, ma su quello voi vedete città distrutte, palazzi sventrati, però quasi in allegria, se vogliamo dire così. E poi Titan 3, scusate, no, ma non era, cioè nel senso, non c'era un Titan 3 uguale a Titan 3, solo che però era inverso, cioè che invece che Zambot 3, okay. 3. Quello era terribile. Come quello era terribile. Okay. Ma calma, che se no no, però mi era venuto in mente, quello veramente era terrificante, cioè. Sentiamo Davide. Una serie davvero bella, importante. A chi capita, io consiglio davvero di riguardarla. Tra l'altro, credo che ci sia su Amazon Prime, non vorrei dire fesserie, ma penso di sì. E vedrete che non è invecchiata bene, secondo me. Anche perché un'intera generazione non l'ha potuto vedere Gundam, perché proprio perché comunque, adesso ce lo spiegherà Carlo, probabilmente... noi abbiamo pagato le conseguenze di un ardire, di un comportamento ardito che per i giapponesi... Anche lì però io posso dire che ho sentito anche una storia diversa, che adesso Carlo mi correggerà. Alcuni sostengono, e c'era un'intervista dentro un cofanetto DVD di Gundam, che in realtà fu la stessa Sunrise all'epoca, credo, che non volle licenziare al di fuori del Giappone. Certo, era questo il problema. Per errore però... ammisero che c'era un qualcosa, adesso non ti so dire. No, un errore, un Kong. Allora loro andarono a chiedere Gundam e i giapponesi, la Sunrise disse no, non la diamo, punto e basta. La Globo TV tornò in Italia e siccome la fiera dell'acquisto, diciamo, della serie aveva promesso, la distribuì, punto e basta. Quando i giapponesi se ne accorsero, fecero una causa importante che ebbe ovviamente i giudici diedero ragione alla Sunrise, come era giusto che fosse, perché i diritti cinematografici erano tutelati, eccetera, i diritti di marchio, i diritti di serie, non era come i videogiochi, che nel nostro paese era, come ricordate, era il Far West, e quello era invece un mercato molto tutelato, protetto dalla CIA e tutto quanto, e infatti addirittura gli originali della Globo TV furono bruciati, distrutti per volere del tribunale. Infatti in Italia per anni poi quella serie originale fu recuperata in maniere rocambolesche da registrazioni di televisioni per caso che c'erano in giro per l'Italia in qualche VHS, che continuava a venire duplicata 150 volte perché non si poteva più recuperare la serie originale. E la Sunrise ce l'ebbe a morte per anni con l'Italia, non dando, anche quando poi Gundam fu iniziato a distribuire al di fuori del Giappone, all'Italia non venivano dati i diritti, cioè andavano a chiedere e dicevano no, voi ci avete fregato, no, non vediamo, punto. Fino a quando gli è passata, dopo 20 anni, a fine degli anni 90, diciamo, poi siano finalmente riusciti di nuovo ad avere i diritti di pubblicazione, e poi le serie hanno iniziato a uscire di nuovo in maniera regolare, ma effettivamente l'abbiamo pagata ben cara questa cosa rispetto a... Volevo solo dire una cosa veloce. Allora, intanto dico una cosa, che mi cancelleranno da tutti i contatti dei telefonini, non esisterò più dopo quello che dico. Io non ho mai visto l'episodio di Gundam in vita mia, non so neanche di che cosa si stia parlando. Eri già con le gnocche. Due anni fa sono stato in Giappone e difatti sono rimasto quasi di merda. Cioè, mi sono capitato in un centro commerciale che aveva 7 piani, che si chiamava Gundam, a Tokyo, no? Il cazzo, vabbè, si chiama così. Vado dentro ed era, immaginatevi un centro commerciale immenso da 7 piani che ha solo esclusivamente scatole di montaggio di Gundam su 7 piani. Cioè, in ogni angolo che ti giravi c'era, adesso ho pubblicato delle foto sulla chat, cioè a scaffali pieni e modelli montati di tutti i colori, forme, e 100.000 giapponesi che sono lì che guardano, che prendono, che portano fuori pacchi, scatole. E sono rimasto un po' così, ho detto, cioè, ma che... Sì, che in effetti poi ricordo che è super, super, super dimensionata sta cosa, tant'è che hai visto, adesso hanno fatto il gigantone che è inseguibile. Sì, adesso anche lì che finalmente... ho fatto la foto di quello attuale che c'è, che non fa un grande movimento, ma adesso ne sta nascendo uno che invece si muove abbastanza. Sì, in teoria per le Olimpiadi doveva essere pronto, perché... Comunque là il fenomeno invece è veramente sembra solo di Gundam, però è in particolare. Una volta ad archeologia informatica, Carlo, parliamo del computer che è mitologico. Il Gundam RX78, certo, un 8 bit. Giusto, vero, RX78, ve lo ricordo, sì. Quel nome me lo ricordo. Sì, che poi RX78 è la sigla del primo Gundam, il robot si chiamava Gundam RX78. meno 2, barra 2. Barra 2, che secondo me versione 2. Esatto. Sì, perché come ha detto giustamente Roberto, introducevano nel cartone una sorta di realismo, di robot, e quindi erano anche robot che venivano costruiti, progettati. Ho detto pure io. Versioni. Non ho capito perché vi siete soffermati sull'ultima cosa che ho detto, l'ho detto pure io, sta cosa dell'approccio realistico. Comunque... Comunque, lasciamo perdere altre due curiosità, certo, su Gundam, se no andiamo più avanti. Allora, Gundam, innanzitutto, vabbè, quella della produzione pirata italiana l'abbiamo detta. L'altra cosa importante di Gundam è che Gundam, per assurdo, il grande successo che appena, di cui ha appena parlato il buon Davide, in realtà non lo ebbe all'inizio. Cioè, Gundam in Giappone, quando uscì, alla prima uscita, non ebbe questo gran successo. Fu un successo abbastanza limitato. Diventò poi un cult negli anni, sempre ritrasmesso, sempre rivisto, sempre ogni volta di più, perché probabilmente non venì capito subito all'inizio questa cosa e ci volle un po' di tempo per diventare, tanto che poi addirittura adesso è considerato il padre di tutta quella generazione di robot realistici che sono nati a seguito di Gundam. Ma all'inizio non ebbe questo gran successo e questo fu dovuto al fatto che si riallaccia a quello che ho detto prima, che le serie in realtà erano una scusa per vendere i giocattoli, ok? Certo. E il problema è che nel 1980, quando uscì Gundam, i giocattoli non erano così belli, i modellini come quelli a cui siamo abituati adesso. Erano abbastanza grezzi. Non so se ve li ricordate i modellini di robot degli anni 70. Non era proprio come il robot che vedevi in televisione. Era un po' più cicciotto, era un po' più grezzo, era un po' più fatto male. Non aveva tutti quei dettagli, non aveva tutti quegli snodi, quei movimenti che invece abbiamo nei modellini di adesso, che sono fighissimi, ultra realistici, metallo presso fuso con parti piccolissime in movimento. E il fatto che tu vedevi in televisione, finché vedevi Goldrake e Mazinga, tu giocavi col plasticone di Goldrake e Mazinga e ti divertivi. Gundam iniziava a piacere a un'età, a dei bambini che anche erano un po' più adulti, sia noi che crescevamo, ma anche il target a cui si indirizzava. E quando il bambino un po' più adulto andava a cercare il giocattolo di Gundam e trovava il giocattolo di Gundam che era uguale a quello di Goldrake, quindi un pezzo di ferro che non si muoveva, che al massimo sparava i pugni e muovevi le gambe fisse e muovevi un po' le braccia, non era contento. E infatti i giocattoli di Gundam, i primi giocattoli di Gundam, non si vendettero. Si vendettero dopo, quando iniziarono a fare i giocattoli tecnici di Gundam, quindi kit in scatola di montaggio, i modellini da montare, i kit precisi, i diorama, tutto quello che veniva dopo. E questo causò un insuccesso iniziale di Gundam nello stesso Giappone. Da noi in Italia invece aveva un successo della Madonna, ma per il fatto della contemporaneità che dicevo prima, era il cartone più nuovo che noi potevamo vedere. Un'altra cosa, Tomino, come ho detto, era un innovatore abbastanza, cioè nel vero senso della parola, perché oltre a Gundam, lui, e qua lo dico più che altro, questa l'accenno come parentesi, perché oggi in chat molti hanno chiesto di Neon Genesis Evangelion, no? Questa serie di anni 90, di robot, eccetera, misticismo. In realtà, dopo Gundam, e questa la sanno in pochi, quindi la dico perché così almeno sono contenti i fan di Neon Genesis Evangelion. Basta. Tomino fece una serie che si chiamava Ideon. Un robot, Ideon, che uscì nel 1980, la serie andò in onda solo in Giappone, non arrivò mai in Italia, nota anche come Space Runaway Ideon, che era un'idea di Tomino, anche questa, con... nella trama un mix di misticismo e robottoni. E se la guardate, adesso non dico più niente, ma se la guardate vedrete, capirete che questa è stata la base di ispirazione di Neon Genesis Evangelion. Quindi ancora una volta Tomino innovatore anche in questo. Basta, non dico più niente, così pizzi e contento. No, ma basta de Neo Evangelion, cioè basta, Neo Genesis Evangelion, basta, regà, basta. Cioè. Ma voi veramente, io posso capire che uno sia un fan, che sia affezionato, che vuole bene tutto quello che fa, cioè, ma noi abbiamo visto della roba, cioè no Evangelion, su, regà. Lasciamo perdere, va, perché proprio mi sale un po'... il fastidio. Vai, vai, vai, vai, vai. Va bene. Allora, cosa succede? Vi ricordate che c'era la Rai, c'erano le TV private, ma prima dell'avvento dei grandi sistemi di canale 5, eccetera, eccetera, in Italia noi vedevamo anche le famose TV estere che parlavano italiano. Tele Monte Carlo. Bravissimo. Tele Monte Carlo e Tele Capodistria. E la Svizzera italiana. La Svizzera. Okay. Comunque Tele Monte Carlo si prendeva... Che era un'emittente italiana poi, de fatto. Cioè, de fatto. E anche loro ovviamente comprano una serie. E che se ne comprano? Una serie robotica che era un po' diversa da tutte le altre. Comprano e trasmettono su Tele Monte Carlo nel marzo del 1980 Astroganga. Vai con la sigla di Astroganga perché è bellissima. Vedete che io ero innamorato del suo cartone animato. Il cielo s'oscurò, tirando i missili e lance termiche e mille più robot. Le famose lance termiche. Ma noi che siamo uomini, noi difenderemo la libertà. Ecco. Che poi è un tema ricorrente, è stata la libertà. Vabbè, qui c'è la sfera. Charlie e là, in simbiosi già con il grande. Allora, però io, Ganga, ma era recente, cioè nel senso era contemporaneo, no, era o era vecchia? Era molto vecchia. Infatti c'ha sempre avuto il dubbio. Infatti. Era del 72, quindi era contemporanea a Mazinga Z. Da quando sono nato io. E infatti era una serie che prendeva l'aspetto del robot gigante in maniera completamente diversa dagli altri. Cioè il robot era un robot senziente composto da metallo vivente che veniva controllato da un telecomando praticamente che non lo pilota, non aveva un pilota, cioè si fondeva con il cuore di Astroganga praticamente il piccolo il ragazzino, sì, esatto. Quindi era insomma una serie abbastanza particolare. La particolarità poi è legata anche a come venne accolta a Milano questa cosa, o almeno diciamo di dintorni di Milano, dove si parlava ancora il dialetto. Qua dico una cosa, il dialetto milanese purtroppo è un dialetto che è scomparso prematuramente. Ah, cioè già penso anche come il romano. No, il romano è rimasto molto di più, molto di più. Voi avete ancora adesso Roma una parte comunque di dialetto o di persone che parlano dialetto o comunque lo conoscete. A Milano è proprio scomparso completamente e questa scomparsa iniziava già a sentirsi negli anni 80. Infatti il dialetto, ma un sacco di fattori tali per cui io ero un ragazzo di paese negli anni 70, primi anni 80, abitavo a Settimo Milanese che era un paese fuori dalla cerchia milanese e i miei genitori parlavano dialetto, i miei nonni parlavano dialetto, noi ragazzi già non lo parlavamo più ma comunque lo capivamo ancora. E ganga in dialetto milanese vuol dire letame, cioè letame più che letame è proprio il liquame che viene dato nei campi per concimare, ok? La ganga. E quindi quando sentivamo Astroganga tutti a ridere cantavamo Astromerda praticamente. Sì, ma questo è solo fuori, io ti dico, io abitavo a Milano. Sì, solo chi, no, ma Milano già il dialetto non si parlava. Milano, ma per darti un numero, fra i miei amici, no, un gruppo enorme di 30 persone, io credo, in un grosso quartiere, che i milanesi doc fossero forse il 30%, forse. Per dare un'idea. Sì, forse, sì, quindi. Lo so, è così. Infatti ci sono tante cose che poi si sono perse del dialetto milanese perché è un dialetto che è scomparso precocemente rispetto ad altri dialetti nel resto d'Italia. E quindi questo per quanto riguarda Astroganga. Non so se Simone, visto che tu lo amavi, vuoi ricordare qualcos'altro a proposito di questo? Beh, sì, io mi ricordo più o meno la storia che lei... la donna era praticamente un esule fuggita da un pianeta che ovviamente era cacciata, insomma era inseguita, non mi ricordo bene com'è la storia, che praticamente arrivando sulla Terra poi si sposa con sto tizio e c'era sto metallo vivente, insomma alla fine me lo ricordo poco, però mi ricordo che mi piaceva tantissimo perché poi era triste, cioè perché triste, poi sto Astro Ganga che era senziente, cioè alla fine comunque mi faceva la pena, perché poi lui si sacrifica, se non mi sbaglio, lui muore alla fine, no? Sì, si crea una storia abbastanza, ma come molte storie giapponesi, ma proprio il dolore dentro, cioè proprio finiscono male, come anche quella che introduco adesso, che finisce abbastanza in maniera triste, perché nel maggio del 1980, su uno dei primi circuiti in syndication italiani, come quelli che dici tu, ma syndication vera, quindi non quello che è inventato, quella fasulla, dopo, ok, ma syndication vera, era Rete A. Rete A era una vera syndication, cioè tu eri una rete privata che accedevi al circuito di Rete A, quindi potevi avere il logo Rete A, ma ognuno aveva una trasmissione in locale diversa dalle altre reti locali che c'erano. La syndication di Rete A nell'80 acquista Daitan 3, quindi Daitan 3, altra fantastica sigla, cantata dal gruppo che si chiama I Micronauti, dato dal guarda un po', giocatore. Ma guarda un po'. Pony Cetra 1980, e anche questo è una sigla che è rimasta nella storia ed è arrangiata dal sempre grande Vince Tempera, cioè l'autore della musica di Goldrake e di Furbo. Poi vi racconto un aneddoto su sta cosa. I loschi piani, i disumani. Vabbè, pure qua. Vabbè, dai, andate con gli aneddoti. Prima Simone, poi Davide. No, vabbè, l'aneddoto a parte, vabbè, che questa era una serie televisiva. Forse la serie televisiva, la serie dei cartoni animati. Forse l'unica serie che guardavo con mio padre. Mio padre impazziva per Daitan 3. Ed è un ricordo che ho proprio mio personale, perché penso di non aver mai visto niente in televisione con mio padre, ma quando c'era Daitan 3, tutti zitti che c'era Daitan 3, questo me lo ricordo bene. E vabbè, poi per chi segue un po' YouTube conoscerà un po' il fenomeno Matteo Montesi, no? Che era questo tizio marchigiano un po' strano, purtroppo, vabbè, una persona che stava un po' fuori di testa e faceva tutti sti video praticamente parlando di Gesù. E c'è stato un famoso video di lui che canta Daitan, però che facendo Gesù, Gesù, tu sei davvero grande, cioè nel senso alla fine faceva queste cose, ed è stato un video che è diventato molto virale, tant'è che poi alla fine un produttore musicale romano, Christian Ice, che insomma anche questo è abbastanza popolare, poi ci fece dei remix su sta cosa, sempre con le animazioni di Daitan, con lui che cantava questa cosa, che vabbè, che non c'entra niente, però voglio dire, nel senso, quanto poi alla fine queste canzoni, perché comunque per me sono canzoni che alla fine ti rimangono impresse, e chissà quante volte pure noi l'avremmo cantate a cazzo di cane, così, perché magari c'era una situazione che ci faceva ridere, come se tu dicevi con Astro Ganga il fatto della merda, no? Cioè, nel senso, alla fine queste sono veramente nel nostro background culturale, sta roba è tanta roba, dai, su. E poi c'era Don Sauer, che buono alla fine, che non si capiva, non si capiva quello che diceva. Cattivone morto, incosciente, che in realtà Oros che interpretava, esatto, la sua voce, quindi... Sì, ma alcuni sostengono che in realtà se l'inventasse lei. La serie è complessa, anche perché era una serie, comunque, questo si rilascia al fatto che piacesse a tuo padre, era una serie un po' più adulta, esatto, un po' più adulta, dedicata a un pubblico più adulto, era innanzitutto anche una serie con un'ironia proprio specifica, molto ironica, esatto, molto umoristica, esatto, rispetto alle altre introduceva ironia e comicità, un po' di sesso, si vedevano le famose beauty Reika, sì, spesso sì, volte sì. nude. Ma Garrison, eccetera. Vogliamo parlare di Garrison? Il grande Garrison, il maggiordomo che si ispirava, e c'erano un po' di mix tra Batman, James Bond, Magnum P.I., c'era un po' tutto dentro, le Charlie's Angel. Ecco, era una serie abbastanza contemporanea, perché è una serie che da noi è arrivata nel maggio dell'80 e in Giappone era finita a marzo del 79, quindi era abbastanza contemporanea, quindi anche questo, ambientata nel futuro, nel 1984. Eh beh, giustamente, quando eravamo futuro, giustamente. Esattamente. Pure Davide c'ha un aneddoto. No, mi ha detto è particolare, nel senso, anche questo come tanti altri è un cartone che ho visto, forse qualche episodio l'ho visto, ma la musica non so perché ce l'ho in memoria come se fosse un brano che ho sentito 100.000 volte. E negli anni credo 90, e quando si usava IRC, non so se vi ricordate, IRC era una chat dove si chattava, sì, come no. Io partecipavo in un canale che si chiamava Star Trek Italian Club, dove c'erano tutti gli Star Trekisti vari, e ce n'era uno che si chiamava Trek Fan One, che lo prendevamo per il culo in maniera esagerata, e un giorno feci un video con la canzone di Daita Trek con il testo modificato, che invece di Daita dice Trek Fan, tu sei davvero pirla, Trek Fan, eccetera, eccetera, e c'ho questa canzone che fece un grande successo nel canale, che se volete posso postare, se vi interessa, nella chat privata, dove vedrete il me che canto questa canzone, rifatta anche abbastanza bene, se devo dire la verità. Scusa, mettila in quella nazionale. No, vabbè, magari. Però in quella privata metticela, che ci interessa. Quella privata va bene, ok. Va bene. E comunque questo è bello, dai, bello. È uno dei robot che rimangono di più nella nostra memoria di successi italiani, insieme fa parte dei grandissimi successi come Goldrick, Jig, Daitan 3, Gundam e pochi altri, che sono quelli che poi sono veramente un arrivati. Finale unico, davvero finale molto triste, come dicevamo, perché al contrario di quello che è tutta la gioia e il divertimento della serie, l'umorismo, arriva a una fine quasi tragica, quasi malinconica, così che si chiude nella pioggia con il silenzio e la pioggia e Garrison da solo sotto alla fermata dell'autobus con l'ombrello aperto, praticamente. Quindi, però fischietta, se non ricordo male. Quindi. Sì, lui fischietta alla fine, però chiude la casa, ti ricordi? La casa vuota, la chiude, se ne esce, c'è un finale veramente malinconico, mi è rimasto ancora malinconico, adesso, molta malinconia. È vero, hai ragione. Cioè, diciamo che a differenza di quello di Astroganga, che era drammatico e tragico, questo era malinconico. Molto malinconico. Comunque, cosa succede? Qua nel 1980, come ho detto, succede veramente di tutto, di più. Arrivano quindi di botto tutte queste serie, una dietro l'altra, babam, babam, babam, babam. Adesso ne elenco qualcuna così veloce. Per esempio arrivano altre serie di Gonagai, che fece dopo la trilogia di Mazinga Z, Grande Mazinga e Goldrake, che sono quella, diciamo, le due serie conseguenti di Space Robot, Getter Robot e Jet Robot, Getter Robot G. Anche queste, cosa succede? Sono due serie che una sta prima, l'altra sta dopo, arrivano contemporaneamente in Italia, su varie reti locali sparse. Quindi a te ti capitava di girare, vedere una serie che era del 74, l'altra che era del 76, dicevi, capivi che erano collegate perché vedevi gli stessi personaggi, poi in una si citava, una iniziava Jet Robot, la prima puntata che io ho visto prima, iniziava dove bruciavano i Getter Robot, e non capivo perché bruciano sto robot, boh, poi dopo mi capita di vedere Getter Robot con il robot, ma questo è il robot che hanno bruciato in quell'altra serie, allora ho capito, collegato, iniziavi, no, a collegare, a dire ma cosa succede, questa è una, questa è l'altra, e quindi proprio assorbiamo proprio un'invasione. Adesso i principali e più diciamo indicativi ve li ho detti, però ecco, per esempio una serie, Rai 2 inizia dopo tutti gli altri successi, avendo Rai 1 sbagliato Mazinga Z, Rai 1 non fa più niente, Rai 2 che invece finisce nel 1980 perché Goldrake parte nel 78, ma finiscono di trasmetterlo nell'80 in Italia, perché sono fanno praticamente tre serie, vanno avanti, non so se ve le ricordate, infatti cambia anche la sigla, eccetera, fanno tutte le puntate di Goldrake fino alla fine, finisce, devono avere qualcos'altro da consumare, prendono un robot abbastanza anonimo che si chiamava Astro Robot Contatto Y. Chi se lo ricorda Astro Robot Contatto Come Y? Come no, scherzi. Ce lo ricordiamo, ma non perché fosse un grande cartone, ma perché la Rai 2 ci fece un merchandising, una campagna pubblicitaria della Madonna. Infatti trovavamo i quaderni di Astro Robot, le cartelle di Astro Robot, le matite, tutti noi a scuola abbiamo, io ho sentito più o meno tutti, abbiamo avuto il quaderno di Astro Robot, quando Astro Robot in realtà non mi piaceva neanche praticamente. Sono quattro amici dalla guerra unita. No, non era un granché in effetti. Però la sigla è bella anche questa. Questa sigla era particolare. Tanto chiedo scusa a tutti quelli che sentono le notifiche di Telegram, ma vabbè, ho dimenticato di chiuderlo, in questo momento non posso farlo perché sto facendo 50 cose insieme, quindi abbiate pazienza quando ascolterete anche il podcast. E io questo mi ricordo, il nome me lo ricordo, però devo dire la verità, mi ricordo anche la canzone, ma non... Il robot era anonimo, era una cosa che infatti non piacque, infatti gli ascolti non furono un granché, però ce lo ricordiamo tutti perché Rai 2 pompò il merchandising in una maniera esagerata, infatti molti, io avevo i giocattoli di Astro Robot ma non avevo visto neanche il cartone, avevo i quaderni ma non avevo visto il cartone, perché poi le mamme e i papà andavano e compravano, oh, il robot, oh guarda il robot, oh, e ti davano il robot, ma in realtà non era quello che chiedevi tu, no, magari desideravi Gundam e ti arrivava Astro Robot. Io non so se un aneddoto personale, io mi ricordo che cominciai a comprare un giornale, adesso uno un po' particolare che non menziono, ma quotidiano, e i miei genitori erano tutti contenti perché detto, cavolo, così piccolino vuole già il giornale, poi finché non hanno scoperto che io compravo quel giornale solamente per vedere a che ora davano i vari cartoni animati. Esatto. Astro Robot comunque, vabbè, dimenticabile, quindi lo citiamo solo per il fatto che la Rai ci investì miliardi in merchandising e quindi alla fine un po' rimase. Ecco, una cosa da dire particolare su Astro Robot Contatto Y, che voi ve li ricordate i Jumbo, i Goldrake grande, quello alto 60 cm, il Goldrake grande, tutti quelli molto grandi, i giocattoloni, quelli chiamati plasticoni, ecco. Il negozio li ho visti, sì. Questi sono una serie particolare della Toei molto collezionata perché hanno un valore abbastanza elevato, perché erano il giocattolo di punta di quell'epoca, quindi quello più costoso, e adesso è anche il robot da collezione più costoso, più ricercato dai collezionisti, la serie dei Jumbo, cioè quindi quelli alti 60 cm. Questi sono tipici della Toei e non uscirono Jumbo, non della Toei. Infatti il Jumbo, per esempio, degli Astro Robot in Giappone non esiste. In Italia, siccome i Jumbo furono prodotti anche qui per la famosa interazione dei giocattoli, che mentre i cartoni ci arrivavano dal Giappone, i giocattoli chissà come mai ci arrivavano dall'America, chissà come mai, lo dico per scherzare, in realtà si sa, è che i contractor delle società di giocattoli li facevano con gli Stati Uniti, e gli Stati Uniti obbligavano a dire che il mercato europeo era cacchi loro, e quindi il Giappone non poteva vendere direttamente, tranne in alcuni casi, all'Italia, ma la Toei doveva passare dalla Mattel, che stava negli Stati Uniti. La Mattel poi rivendeva in Italia. Infatti alcuni robot come Mazinga, Goldrake, eccetera, in realtà da noi arrivarono con una definizione che si chiamava Shogun Warriors, che noi non ce ne fregava niente, noi era Goldrake, era Giga e Mazinga. In realtà Shogun Warriors era il nome che diede a questi robot la Mattel americana, perché presi i diritti di produzione dei giocattoli giapponesi di questi robot per venderli in America, siccome i cartoni animati anime giapponesi non arrivavano negli Stati Uniti, fece un contratto con la Marvel e pubblicò una serie a fumetti che si chiamava Shogun Warriors, dove questa serie fumetti Marvel americana introduceva i robottoni nei fumetti. in questi fumetti furono introdotti dei robot che non arrivarono neanche da noi, tipo Raiden, che però arrivò come giocattolo, ma non come cartone animato. E nella serie Shogun Warriors la Mattel ci infilò dentro tutti i modellini della Toy, Mazinga, Jig, Gaiking, e chi più ne ha più ne metta, ok? Quindi, insomma, questa particolare commistione, i robot ci arrivavano dagli Stati Uniti. Ci arrivavano dagli Stati Uniti, ma la Mattel poi produceva in stabilimenti italiani. Infatti i plasticoni giganti dietro, se guardate, se qualcuno di voi ce l'ha o se sa qualcuno che lo conosce, dietro trovate scritto Made in Italy. Perché Made in Italy? Perché venivano prodotti in stabilimenti italiani. Il Astro Robo Contatto Y, lo stabilimento italiano della Mattel, produsse, si inventò, riciclando pezzi di Gundam, di Mazinga, ricolorandoli, mettendoli insieme in qualche modo, fece i Jumbo di Contatto Y, di Astro Robo Contatto Y, che in Giappone non è mai uscito. Infatti adesso collezionisti giapponesi pagano l'ira di Dio per avere questi modelli fabbricati in Italia da collezionisti italiani. Ma modelli che vanno anche a 3.000, 4.000, 7.000 euro, giusto per darvi... Carlo, ne hai qualcuno o no? Uno ce l'ho, sì. Perché quello che non abbiamo detto è che Carlo è un grande collezionista dei robottoni, forse... Sì, allora, una cosa che non sanno in molti, che molti mi conoscono e sanno di me per l'archeologia informatica, per la mia passione della storia dell'informatica, eccetera, ma io non sono un grandissimo collezionista di... anche se ne ho parecchie, pensa se eri in collezionista, insomma. Non sono Roberto ha dei pezzi che valgono molto di più dei miei. Vabbè, certo, sì. Quindi se vogliamo parlare di collezioni, quella di Roberto mi batte 101 nell'ambito dell'informatica. Se invece parliamo di robot, la mia collezione vera, cioè quella veramente di valore, è la mia collezione di giocattoli di modellini di robot, che l'ho iniziata tantissimi anni fa, ancora negli anni 90, e l'ho proseguita e portata avanti per tanti anni. Ho veramente dei pezzi di pregiato valore, anche perché lì parliamo che un pezzo di questi vai dai 400 euro ai 2000, 3000, 6000, 7000. Sì, oggi dici, però all'epoca quando l'hai trovato magari costava 10 euro, che ne so. No, certo, io li colleziono da tantissimi anni e li ho pagati anche poco rispetto al valore che hanno, però per dire che è una collezione che negli anni mi ha portato ad avere numerosi pezzi, insomma, di un certo valore. E niente, questa è aperta e chiusa parentesi su Astro Robo Contatto Y, la chiudiamo qua. Meno male. Andiamo avanti. Comunque, insomma, ha sempre preso qualcosa di un po' scarsotto, insomma, non ha mai imbroccato bene la Rai. No, esatto, infatti la Rai dopo Goldrake non ne ha imbroccate molte. Ci ha azzeccato all'inizio, poi dopo... All'inizio è stata la prepista, ok? Poi dopo ci ha cannato. Erano anche gli anni della nascita della TV privata, io ricordo, non so, esatto. Antenna, infatti, Nord, quelle che poi si trasforma, o Canale 51 a Milano, che diventarono Italia 1 e Canale 5. Lasciamo subito il 1980 con l'ultimo robot uscito nell'80, che era Gakin robot magnetico, che non era Gaiking, ma era Gakin, ok? Che era, come molti lo confondono, però questo è in stile Jig, cioè si montava con pezzi magnetici. Anche questo si chiama robot magnetico ed era formato da, era guidato da una donna e da un uomo. Ah, sì, ho capito quale. Sì. Però era simpatico. Molto, e questo era bello. Diciamo, era curiosa questo fatto che si dovevano fondere insieme l'uomo e la donna, era anche poetico, se vogliamo. Era, no? Era molto strano, come sì. Era la prima volta che c'era un pilota donna protagonista alla fine nella serie, perché negli altri la donna era sempre secondaria, il personaggio secondario, non era il protagonista. A parte i robottoni che tiravano e sparavano le zizze, insomma. Sì, ma non erano protagonisti, erano personaggi secondari. Qua invece la donna guidava il robot protagonista, Gakin, fondendosi insieme all'uomo per guidare il robot Gakin. Okay? Quindi era anche questo un, diciamo, un termine di innovazione, se vuoi, la donna che guidava lei stessa il robot principale. Arriviamo nel 1981. Il 1981 è proprio il secondo anno di boom, dopo l'80-81. Fino all'82, dall'82 comincia un po' il declino. Nell'81 ne arrivano tanti anche qua, sempre sulle reti locali, forse anche troppi, diciamo, anche troppi. Qua ne salto qualcuno, dai, ne diciamo più importanti. Uno molto importante, esatto, uno molto importante è questo, è Groyzer X. Groyzer X è di, sempre di Nagai, con Nagai, ma fatto per la Nakajima, credo, la ditta, non la Toei. Questo non ce l'ho, Groyzer X esce, e questo è importante perché è di Canale 5, perché nell'81 parte Canale 5, e Canale 5 parte con questa serie robotica, Groyzer X, ok, di Go Nagai. Quindi è importante per questo. In Italia l'hanno visto in pochi, non è stata una delle grandi serie di successo, ma è importante per i giocattoli, perché la Nakajima, che era l'azienda contro la Toei, produsse questo giocattolo di Groyzer X in una maniera, fu il primo giocattolo robotico a iniziare ad avere dettagli, particolarità molto più avanzate rispetto agli altri. Se voi lo guardate, probabilmente ve lo ricordate, se andate a cercare una foto del giocattolo di Groyzer X. Il giocattolo di Groyzer X ebbe molto successo perché era molto bello il giocattolo stesso, cioè era molto dettagliato, aveva elementi in più, per esempio potevi mettere una pila dietro nella schiena, era una pila di quelle delle macchine fotografiche che ti permetteva di accendere le luci davanti quando accendevi la mitragliatrice che usciva fuori dal petto, per esempio, e nella versione aereo aveva delle cose che si trasformavano, insomma aveva molti pezzi anche da sparare diversi, e il metallo presso fuso aveva dei dettagli maggiori rispetto agli altri giocattoli. Infatti la Polysteel, azienda italiana famosa per i giocattoli delle macchinine, in quegli anni volle cavalcare il successo dei robot come giocattoli, e cosa fece? Copiò il Groyzer X, facendolo in metallo presso fuso con colori leggermente diversi, ma la Polysteel uscì con una copia del Groyzer X della Nakajima in Italia per fare i suoi giocattoli robotici, che non erano legati a nessuna serie, erano un'invenzione completamente italiana, ma copiarono anche gli stampi e il modo di fare del Groyzer X della Nakajima. Questo per dare, insomma, una collocazione di come mai Groyzer X era importante. Groyzer X inoltre in Spagna il primo robot che arrivò in Spagna fu Mazinga Z. Infatti in Spagna l'equivalente del nostro sentimento verso Goldrake, loro ce l'hanno verso Mazinga. Mazinga Z prima e grande Mazinga dopo, perché da loro arrivò in questo ordine, se vogliamo più coerente, simile al Giappone. E siccome in Spagna ebbe un grandissimo successo, dopo Mazinga, erano due serie all'epoca, Mazinga Z, grande Mazinga, fine. Non è che hanno fatto altri Mazinga, ma tanti anni dopo ne hanno fatti altri. In Giappone non sapevano come fare, quindi presero Groyzer X e lo vendettero come l'evoluzione di Mazinga, cioè fecero una traduzione tale per cui questo era il nuovo Mazinga, dopo Mazinga Z, grande Mazinga, Mazinga X, che era il Groyzer X praticamente. E sai come lo chiamarono? Come lo chiamarono? El Giustiziero. Va bene. Bella zozzeria, complimenti. Esatto. Sempre nell'81 le reti locali, e qui lo citiamo perché l'ha citato prima Simone, uscì Zambo 3, che viene considerato un po' il clone al contrario di Titan 3. Beh, non è che viene considerato, il design è identico. Cioè, la storia era molto bella, esatto. Era molto drammatica. Tragica, veramente con atti di genocidio, cioè delle cose veramente terribili. Veniamo state per la prima volta le conseguenze reali di una guerra, prima di Gundam, se vogliamo, che infatti questo è stata la prima collaborazione tra Sunrise e Tomino, poi l'inventore di Gundam. È da qui che deriva l'inizio del suo atteggiamento realistico, da Zambot. Zambot 3 in realtà fa sempre parte del team di Tomino, del character design di Yoshikazu Yasuhiko, che era il disegnatore dei mecha, dei Zambot. E quindi, insomma, è importante Zambo 3, pur essendo considerato quasi da noi un po' in maniera negativa, perché dal grande successo di Daitarn diciamo, vabbè, adesso è arrivato questo Zambo che ha la luna al posto del sole, eccetera, eccetera. Esatto. No? La cosa che ricordo io, anche la novità furono l'ingratitudine, cioè gli eroi, tra virgolette, erano mal visti dalla popolazione terrestre, anche loro, perché venivano considerati quasi corresponsabili, insomma, delle distruzioni. Guarda, veramente terribile. Ma anche oggi, cioè, nel senso, io l'ho riguardato qualche anno fa, così per curiosità, sempre per queste mie sperimentazioni, per vedere se mi fanno ancora lo stesso. E devo dire che, cioè, delle tematiche toste, cioè, proprio tosto per davvero. Veramente. E quindi quando siamo sempre nell'81 in Italia, veramente inizia uno dietro l'altro, pam pam pam, cioè qui le sorbiamo di tutti i colori, non so neanche quanto tempo passavamo davanti alla televisione, vivevamo davanti alla tele, tranne Davide che andava a gnocche, noi vivevamo davanti alla televisione. Ma io andavo a computer, lavoravo io quasi già, stavo già lavorando. Stavi già lavorando, quindi figurati. A 17 ho iniziato a lavorare, per cui... Beh, diciamo che quando, con l'arrivo delle televisioni private, in realtà sta roba la davano il pomeriggio, che era più o meno magari prima che facevi i compiti o dopo che facevi i compiti, quindi più o meno... O mentre facevi i compiti. Non li facevo mai fatti. Comunque, ti guardavi... Se facevi i compiti. Ti sorbivi sta quintalata di cartoni. Un altro cartone fondamentale che arriva in quegli anni, e qui prepara la sigla, è Daltani. Quello sì, la sigla l'ho sentita. Aspettate perché voi non eri pronto. No, tu mi dici la sigla Daltanius. Scritta da Franco Migliacci, musica di Massimo Cantini, cantato sempre dai Super Robots, che arrivavano dai successi di Mazzia. Questa è bella davvero, eh? Questa quando c'è il ritornello. Ho visto veramente centinaia di persone cantarla all'unisono. Devo dire dal mio che questa, tutte le altre mi piacevano proprio e mi piacciono ancora, devo dire la verità. Questa è quella che mi fa venire proprio proprio l'emozione, quella di saltare, proprio mi fa venire voglia di saltare. Zingara questa, zingari, sì. Cioè proprio una... Cioè mi fa proprio venire d'oro, però, eh? Un zecchino d'oro. No, forse non la senti bene. Dopo ti mando i file, così te li risenti domani. Però in generale ti viene proprio la voglia di zompare, cioè proprio di saltare. Non so, Roberto, tu ci hai saltato con questo. La sigla è stupenda, ma a me piaceva molto anche il robot, il cartone. Adesso, ma più che il cartone qua, adesso entriamo in un mood che è quello proprio dei giocattoli. Perché qui con Daltanius e poi gli altri che vedremo dopo, arriviamo proprio al giocattolo figo, che era la cosa più bella del mondo, che tu vedevi nel cartone e poi rifacevi fuori. Perché Daltanius cos'era? Era un leone, altri due robot e un'astronave che si incastravano uno dentro l'altro e formavano un robot gigante. E non so se ve lo ricordate, il giocattolo era uno dei giocattoli più ambiti da noi bambini dell'epoca. Tu avevi questo robot di metallo che si trasformava, muovevi la testa del robot, si girava, incastravi l'astronave, tiravi fuori la testa. Carlo, sai cosa non abbiamo sottolineato? Ed è una gravissima mancanza. Sì. La trasformazione nei cartoni animati. Per esempio, Daitan 3, quanto durava la trasformazione in aereo? Ma sì, infatti era dei giocattoli, questa era proprio tipica del fatto dei giocattoli. Daitan 3 non l'abbiamo citato, ma era il primo trasformabile, che quindi staccavi. Ma durava tipo un minuto. Sì, lo facevi diventare un aeroplano. Quando facevano l'intera trasformazione. Ma sì, perché era quello target. E certo. Tu dovevi desiderare di avere il giocattolo a casa e fare quella trasformazione, che era un po' quello che noi facevamo. Guarda che già Danguard, che avevo citato nel 77, certo, anche lui aveva la trasformazione, se te lo ricordi. E il giocattolo che noi avevamo, di plastica, tiravi sui piedi che diventavano, certo, gli alettoni dietro, attaccavi il carrello con le ruote sotto, insomma, tutta una serie di trasformazioni che rendevano il giocattolo molto figo. E Daltanius era un esempio eclatante di questo, perché prendevi più giocattoli indipendenti, il leone, il robot che facevano le gambe e l'astronave, e li mettevi insieme per fare il robottone gigante. Io mi ricordo che non solo io l'ho fatto, ma penso molti altri tentavano di costruire il Daltanius con il Lego, in modo da fare poi la trasformazione quando non avevi il giocattolo. Nessuno si è mai chiesto perché mai serviva quell'accidente di trasformazione, non partiva solo per vendere il giocattolo. È ovvio. E poi il nemico doveva aspettare un minuto senza sparargli durante questa enorme, lunghissima trasformazione, no? Esatto. E un altro di questa serie che esce sempre l'81, il giocattolo figo, è Gordian. Chi se lo ricorda Gordian? Come no? Bellissimo. Simone, Gordian è bello. Simone, te lo ricordi Gordian? No, su due piedi non me lo ricordo, però sapete, magari ne parlate. Il robot matriosca, il robot piccolo che entrava nel robot medio, che entrava nel robot grande. Che entrava nel primo robot, poi il robot che entrava nel secondo e il robot che entrava nel terzo. Te lo ricordi adesso? No, non me lo ricordo. Però strano, ma me lo vado a cercare. Era un robot molto bello, anche molto bello. La cosa più aveva un cane robot, anche lui, sì. La pantera, scusami, la pantera robotica. E poi era bello. I Madokter, ricordo bene qui, i cattivi erano i Madokter. Sai che questo non me lo ricordo. Sì, giusto, sì, erano loro, bravo. Allora sì, me lo ricordo, adesso che lo vedo me lo ricordo, però io penso che già ho un po' cominciato a rompermi, diciamo, un po' dei robottoni, quindi insomma li seguivo, però insomma più distrattamente, anche perché poi c'era veramente già troppa roba, cioè quindi poi iniziavano veramente tante. L'altro sempre il giocattolo, così, quindi Gordian, tre robot, abbiamo detto, poi Daltanius, God Sigma, che era anche questo formato robot che si incastravano uno sull'altro. Ma poi da ricordare nel 1981, l'ultimo robot effettivamente da ricordare nell'81, che introduce qualcosa di diverso, è sempre sigla cantata dai Super Robots, Trider G7. Ah, vatta. Trider G7. Bellissima. Mi sto fa i miracoli, Bravo. Tu non mi avvisi, cioè non passi da una cosa all'altra così a casaccio. Io veramente sto seguendo il documento, ma tu te lo sei dimenticato. No, io proprio non l'ho manco aperto, ecco perché. In effetti ci ho pensato dopo. Ce l'ho aperto e sto prendendo tutti gli spunti. Io intanto pubblico foto nella chat. Vedo, fai bene. Questo era veramente carino e divertente, secondo me. Questo è un po' una storia nuova, cioè un po' diversa dalle solite. In pratica i robot erano, anche qua se vuoi, un concetto un po' di real robot. Cioè i robot non erano degli eroi, ma erano degli strumenti che venivano usati dalle aziende per fare costruzioni in palazzi o poi lavori di scavo, eccetera. Sono, erano macchine che venivano usate, però per caso questa azienda di famiglia che c'ha questo ragazzino Vatta che eredita la ditta e il robottone di lavoro, lo usa invece per fare il supereroe, cioè per andare a combattere gli alieni. Però insieme c'ha tutte tematiche divertenti, se vuole, che bisogna tenere il bilancio dell'azienda, quindi bisogna andare i costi, se usi troppi missili poi dopo sono troppi soldi, no? Di meno. Sì, me lo ricordo, sì. Anche questo ricorda un po' Daitan come design, un pochino, non so se... Come design è dell'epoca di Daitan, quindi è abbastanza... Anche l'ironia, sì. E anche appunto a livello ironico, però introduce questa novità del robot che non è un'arma, ma è un mezzo, è un qualcosa... Poi l'azienda e famiglia, poi dove c'è la cosa divertente, che quando lo accende il robot parte col sistema operativo della Microsoft in Fortran, scritto Fortran by Microsoft, c'è tutto il boot, la sequenza di boot nello schermo che e parte. Ti ricordi che quando parte devono aprire una specie di giardino con giochi per bambini? Sì. Esatto, dei bambini, che i bambini scappano tutti. Allora, mai capita poi questa cosa, che senso potrebbe avere nella realtà, no? È solo ironica, ma soprattutto riaggancia al modello dei giocattoli. Infatti anche il trailer G7, anche quello, il giocattolo era molto bello, aveva questo coso, questa specie di aquila di plastica rossa che si agganciava dietro, che mimava l'arma finale di Trader G7 quando apriva quest'aquila di fuoco che tagliava poi il nemico, eccetera. Quindi E anche la scatola del giocattolo era molto grande, molto dettagliata, con tutti i pezzi, insomma, che poi, sempre legato al detto, mondo dei detto fra noi, no? Questi robottoni, quando arrivava il nemico, combattevano, davano le botte, piavano le botte, arrivavano sempre al momento in cui stavano per morire, e poi pa, l'arma finale. Ma la potevo sa prima? Scusa, esatto. Vabbè, perché fai per mezz'ora poi? Appunto, esatto. Poi devi fare 52 episodi, 77 episodi, qualcosa di inventato. Ho capito, però, cioè, vedi, e poi, vabbè, poi l'innesco dell'arma finale era sempre quel minutino di. Di tantissimi eventi. Beh, vabbè, quello è molto capitale. Giapponese come cosa, eh? Infatti se tu vedi il sole, la luna che si incrocia, l'acqua che sale, il fuoco, tutta una serie di fuori, poi partono assieme e tagliano in due cose e finisce questo tutto. Anche nei videogiochi, no? Nei JRPG, quindi tutti i giochi di ruolo giapponesi, quando c'è una mossa particolare o una summon, quindi fai un'evocazione, c'è sempre tutto quei 15, 20, 30 secondi di animazione speciale che comunque riporta poi anche a questo, insomma, che fa parte un po' proprio del loro tessuto, anche questo modo di rappresentare le cose, no? Che è figo anche una volta, 50 volte è un po' una rottura dei coglioni, però alla fine, cioè, era divertente, perché veramente quando stava lì piava le botte, stava lì tutto rotto, sdrenato, a un certo punto l'arma finale e quelli morivano. E io ogni volta me lo dicevo, ma perché, scusa, solo usava 3 minuti prima che succedeva? Vabbè, allora l'attacco solare di cose, di Titan 3. È la stessa, cioè, cosa, la stessa cosa. Stessa cosa, certo. Ma magari il raggio protonico del Jig, già quello, cioè già solo quello. Quello era una mezza schifezza. Però, il tuono spaziale di Mazinga. Cioè. È sempre come quel gusto di dire ci voglio provare con le mie mani, poi dopo se non ci riesco, vabbè, tirerò fuori. Invece Goldrake, da questo punto di vista, mi piace di più perché sì, c'aveva le armi speciali, però non c'era un'arma definitiva. Non mi ricordo, perlomeno. Un po' alla fine è stato il raggio antigravità, però è il pugno, la trivella perforante. Sì, il lancio maglio perforante. Sì, però in generale, cioè, comunque la barda spaziale. Il tuono spaziale, anche quello. Ma che anche questa cosa, vedi, hai fatto bene a dirlo, Simone. Non in tutti i paesi c'era declamare l'arma ad alta voce. Questa è una delle cose. Sì. Che mi risulta è una introduzione dei grandissimi doppiatori italiani. Adesso non abbiamo tempo di parlare. No, anche in Giappone lo dicevano. Sì, ma non in tutte le. Da alcuni che ho visto, non dappertutto. Non lo so, però il Mazinga era Rocchetto Punch e sparava il fuoco. Grandissimi doppiatori italiani come Malaspina. Se fatevi un giro su YouTube, andatelo a sentire, ha una voce eccezionale. Come tuona quando urla Goldrake o alla barda spaziale, è incredibile. Cioè. Alla barda spaziale! Che poi perché deve essere spaziale sta la barda? Cioè, non ho mai capito. Aveva tutti quei termini intergalattico, cibernetico, che erano suoni, che erano cose, parole mai sentite, che dicevamo. I raggi gamma, che se fossero veramente distruggeva l'intero pianeta, quei raggi gamma. Che poi è entrato nel linguaggio comune, no? Quando davi fuori, cacchio, questo panino è ipergalattico. Vabbè, però quello viene dalla fantascienza in generale, che tra l'altro nel gruppo di fantascienza oggi Carlo Sant'Agostino ha condiviso un film, una serie di televisione, cazzo era l'Orion lì, che sì, poi, quella tedesca, che qua, esatto, che poi dall'altro doppiato in italiano, però con tutti i titoli ancora tutti rimasti in tedesco, che poi tra l'altro quanto Astronave dei Forbidden Planet è, cioè è uguale, cioè nel senso non divagare, magari faremo una puntata apposita. Carlo, vabbè, dai, concludiamo, dai. Era l'81, l'82 l'inizio della fine, abbiamo vinto i mondiali nell'82, esatto, continua l'invasione, ne dico solo uno del mondo. Ne dico solo uno dell'82, poi finiamo, poi lasciamo stare gli altri. È l'unico che voglio citare, è importante, Golion, che molti se lo ricordano, lo conoscono in realtà non con il nome originale di Golion, ma di Voltron. Perché in realtà Golion arrivò nell'82 in Italia, una serie prodotta nell'81 dalla Toei, quindi molto recente. Non ebbe un gran successo in Giappone questa serie, ma fu la prima serie robotica acquistata seriamente dagli americani e trasmessa in America con il nome di Voltron. E infatti da lì iniziò il successo, diciamo, il primo robottone che si ricordano gli americani è questo, è Voltron, che era il nostro Go Lion, cioè il robot formato da 5 leoni che si fondevano assieme, anche quel giocattolo mega. Che poi, scusa, correggimi se sbaglio, ma gli Attila in Lombardia c'aveva un altro nome ancora? No, giusto? Dico una stupidaggine, lo chiamavano Chaltron. No, questo non me lo ricordo, può essere, non lo so. Vabbè, lo so, una battuta era. Va bene, non la capisco. Sai che io a volte dai, parlo serio, diciamo, non si entra sulle cose serie. Entro in modalità Sheldon e le battute. Esatto, esatto, perché tu dici sulle cose serie non si scherza. Vabbè, comunque il robottone Chaltron era figo, dai. Ci voleva stare. Vabbè, questa la cito. Adesso poi ci sarebbero tantissimi altri robot nell'82 che arrivano, ma sono tutti, se vogliamo, robot minori, Baldios con Butler, Vultus, Godam, eccetera, eccetera, eccetera. Baldios non era malaccio, dai, Baldios. Sì, no, erano tutti carini, però stiamo parlando veramente dell'inizio della decadenza di questo genere e l'arrivo poi qua, già in questi anni, nell'82, poi 83-84, iniziano ad avere successo serie sempre giapponesi, ma non più robotiche, ma con altri tipi di ambientazione. Vabbè, di tutto poi è arrivato, quindi nel senso, dal romanzo storico a comunque alla telenovela, veramente, cioè qualsiasi cosa. Sì, in realtà, ecco, è bello aver comunque sintetizzato poi tutto sommato, perché tutti eravamo terrorizzati del fatto, però in generale io ho due cose da dire, poi vorrei che ognuno di noi dicesse una cosa anche sua, no? Nel senso, su questo, e così ci andiamo a chiudere, anche se poi però prima ti faccio una domanda, ma Babil Junior? Sì, contro le forze del male. Vai, Babil Junior! Io mi ricordo che c'era sto ragazzino che entrava dentro sto tempio antico. Sì, era una storia anche quella abbastanza... Ma non c'era il robottone lì? C'era il robottone, ma non era pilotato, era più simile, se vuoi, al concetto di... Era tipo un golem? Sì, esatto. Allora mi ricordo. Era un robot senziente. Ok. Senziente, sì, me lo ricordo. Al concetto di astrogatto. Quello era strano, quel cartone animato, era bello. Non era... Infatti non l'ho citata perché non ho citato tante serie e l'ho escluso, l'avevo scritto nel documento, poi non l'ho detto. Ho tolto da questo elenco quelle serie dove il robot c'era, ma non era il protagonista, ma era quasi una comparsa, okay, o comunque era un fattore secondario. Babil Junior era uno di questi, il robot era una cosa latere rispetto alla storia, non era il protagonista, okay? Il protagonista era lui con la sua pantera che andava in giro, insomma, la ricerca dei segreti di Babilonia, poi trovava questo robottone senziente. E poi oppure ho tolto anche quelli di genere umoristico demenziale proprio, che molti si ricordano, la serie Yattaman, Calendar Man, che non mi sono mai piaciuti, devo dire la verità. No. Calendar Man c'era il robottone, ma non era il quid della storia, cioè non c'entrava niente, era messo lì un po'. E ho tolto anche un'altra cosa, per esempio i telefilm con il robottone, di cui uno che non è mai arrivato in Italia, il telefilm stesso, ma abbiamo avuto il robot come giocato dalla serie Shogun Warrior, era il robot gigante di Spider-Man giapponese, perché molti non lo sanno, Madonna, ma terribile, sì. In Giappone fecero una serie telefilm di Spider-Man, sì, dove aveva un robottone gigante terribile. Poi Megaloman, tanti altri, sì, vabbè, infatti non erano Megaloman. Ricorda la sigla. Ah, bellissimo. Poi tutte le serie fantascientifiche che però non hanno i robot, Capitan Arlo, Capitan di Megalo. Beh, sì, l'ha chiamato lì, sì. Beckman, Hurricane Polymar, Conan, eccetera. Galaxy Express 999, insomma. Magari di queste faremo poi altre. Magari sì, esatto. Allora, la puntata su Candy Lady Oscar. No, vabbè, no, anche no, dai, ci penseranno altre trasmissioni. Comunque in generale, io ci avevo, penso di averlo già raccontato in qualche altro podcast, ma mi ricordo a un Natale mi regalarono UFO Robot, no? Quindi Goldrake dentro al disco, cioè dentro all'UFO praticamente, che usciva fuori e c'era il robot a parte e l'UFO a parte. Non l'hai conservato quello? No, ma la cosa bella è che questi giocattoli erano fatti di metallo. Sì, cioè, metallo fuso. Erano fatti, esatto, per durare. E io mi ricordo che come l'ho scartato questo regalo, ero non ero felice di più, era bellissimo, ragazzi. Poi il pieno dei dettagli, bellissimo, l'ha fatto benissimo. E mio cugino fa, dice, me lo fai vedere, pam, me l'ha rotto. Cioè, ha rotto l'apertura che praticamente poi non si chiedeva più del disco dove poi si infilava il robot. Phaser. Pensa che quel giocattolo lì si è tenuto bene, si è tenuto male. Come minimo lo vendi a 200 euro. Si è tenuto male. Ma quella se è tenuto bene, supera tranquillamente i 500-600 euro. Io guardalo, veramente è stato. Forse non ho mai odiato in un Natale una persona così ferocemente come. Perché poi dopo, sai, quelle situazioni di circostanza dove vabbè, non ti preoccupare, poi non è che hanno ricomprato, capito, col cazzo, no? Quindi alla fine, cioè, sono rimasto un culato e niente, non ci ho avuto più sto... Ma era bellissimo, cioè, era una cosa veramente bello, insomma. Vabbè, niente, ci tenevo a raccontare questa cosa, perché, insomma, ecco, non sono un collezionista, ma penso che alla fine comunque mi avrebbe fatto piacere avere comunque un oggetto che era veramente bello. E questo ci riporta anche al fatto che, cioè, io c'avevo l'Alcadia, no? Cioè, nel senso che quella di, sempre ritornando al discorso di Capitan Harlock, che era una versione anche quella della Polysteel, quella verde. Esatto, bravo, quella verde chiaro. Che secondo me pure... oltre a copiare il Gloiser X, la Polysteel copiò anche l'Arcadia di Capitan. E infatti, cioè, non mi sembrava proprio ufficialissima, però insomma, comunque anche lì i dettagli erano bellissimi. Erano questi oggetti di metallo che io ci giocavo, ma cazzo, cioè, erano veramente belli oggetti proprio. Cioè, se uno ci pensa magari alle plasticate, capito, che compriamo oggi anche a. C'è soltanto gli smartphone, no, vedete, tutta roba di plastica. Erano oggetti che se li tiravi come robot volanti ti facevano male, chiamano in testa, sì, ammazzavano. Sì, no, assolutamente. Infatti, quello magari poteva essere la cosa negativa, però in generale. Davide, dicevi? No, dicevo che erano di metallo pesante. No, che tu hai scritto una cosa sulla chat che volevi dire, penso. No, no, è una roba no, per niente. Noi. Ok, perfetto. Ah no, ok. No, io ho visto la cosa e pensavo che dovevi dire qualcosa. No, dicevo che ho giocattolo, ma che non è inerente a quello che è il nostro, che è una 1701, è un'astronave dell'Enterprise, della Dicky Toys degli anni 70, boxed. Vale. Chissà quanto vale. Abbastanza, sì. Non i miliardi, ma vale. Ma perché è ancora scatolata? Eh? Ancora è scatolata? Sì. Ora è scatolato. Bene. Dai, un aneddoto, Roberto, così poi ci andiamo a chiudere. Guarda, bellissima questa rievocazione, diciamo così. Io credo che per noi queste cose, io parlo almeno per me, per il mio gruppo, per quelli che conoscevo, erano l'equivalente probabilmente di quello che erano i fumetti in altri paesi. Era che poi è cambiato anche da noi, sono veramente arrivati i fumetti, ma più che quelli noi guardavamo questi cartoni animati e sono cresciuti con noi. L'aneddoto, ricordo che spesi una valanga di soldi all'epoca, tipo, ma veramente 250.000 lire, qualcosa del genere, per procurarmi le cassette, non mi ricordo dove, in qualche posto strano, di Gundam e di Trader G7, perché all'epoca chiaramente non esisteva nessun modo di comprarli o fare alcunché. Allora c'era questo mercato nero parallelo di VHS e spesi un capitale per poterle avere. Una cosa che voglio ricordare in chiusura riguardo al discorso dei giocattoli, Daitan 3 non era della Toei ma era della Clover, quindi un'altra azienda sempre concorrente, e la Clover fu una delle pochissime, insieme forse alla Nakajima, qualche giocata alla Nakajima, che arrivò in Italia non passando dagli Stati Uniti. Infatti, una cosa che non ho detto, in realtà tu ti ricordi bellissimo quel Goldrake, te lo ricordi, fantastico, molto bello, era l'unico modellino della Mattel che era uguale all'edizione giapponese in tutto e per tutto. Mentre gli altri modellini della serie Shogun Warriors della Mattel, quindi modellino di Mazinga, di Dragon, Jet Robot, eccetera, eccetera, erano in versione economica, erano più brutti della versione giapponese, avevano meno dettagli, per esempio non si muovevano le gambe, non avevano degli snodi, avevano delle armi in meno, insomma tutta una serie di cose per essere di fabbricazione più economica. Daitan 3 invece arrivò dalla Clover, importato da una società di Milano che era la Ales, direttamente il modellino distribuito della Clover direttamente in Italia. Quindi i modellini di Daytan 3 in Italia erano molto belli e molto desiderati, a partire dalla Mac Patrol. Ve la ricordate la Mac Patrol, il modellino della macchina? Fantastica, fantastica, scherzi. Era un modellino che tutti volevano, bellissimo, e anche i modellini di Daytan 3, i giocattoli di Daytan 3 erano molto, molto più belli. Io volevo proprio la Mac Patrol vera, ma era il mio sogno. E degli attuali. Io c'ho il Gattire. Questa la do come notizia a Simone. Io ho avuto la possibilità di intervistare, e ho la registrazione mai pubblicata, del proprietario dell'Ales, che racconta quegli anni in cui importò Daytan 3, che lo fece diventare ricco praticamente. Quindi è una cosa che magari prima o poi tireremo fuori dall'archivio e pubblicheremo in qualche canale YouTube. Bene. Basta. Questa bene, ragazzi. Allora, è sicuramente un excursus legato a una generazione, a un'infanzia, ma comunque poi alla fine in realtà anche nella cultura degli anni 70, 80, la nostra cultura pop, comunque in generale comunque è un background che ci siamo portati avanti e alla fine è diventata storia in qualche maniera, anche questa storia che, come ha detto poi Carlo, sì, magari a volte ha assunto degli aspetti di leggenda, a volte insomma invece in realtà è stata ricostruita anche più fedelmente dal super computer che disegnava Goldrake a chissà quante altre cazzate saranno uscite fuori, insomma, durante come succede spesso, insomma. Però andava, è una storia che andava raccontata, questo è, e so che è sempre un tema un po' particolare, perché io veramente ho visto pure oggi, insomma, tutti, ognuno voleva comunque dimostrare che ne sapeva qualche cosa, no? E che è bello da una parte, dall'altra insomma ti fa anche rende conto che, come giustamente anche precisato poi Carlo prima, essendo un tema particolare dove tutti sono un po' sensibili, diciamo quello che abbiamo escluso e perché, insomma, perché poi cominceranno a scrivere dicendo: ah, non avete messo questo, non avete messo quell'altro, e via dicendo, insomma. Quindi prendiamola anche per quello che è, sì, un excursus storico, ma anche insomma una cosa, un viaggio nella nostra memoria, ecco, diciamo così, che ci fa piacere, e spero vi sia piaciuta e questa puntata. Poi ci torneremo ancora, mica abbiamo finito, ne abbiamo ancora di puntate, quindi de robe, esatto. Tra l'altro ho parlato, ecco, una cosa che ho detto, ho escluso quelle nuove, quindi anche Macross e le altre serie nuove le ho escluse perché stavamo limitati agli anni 80. No vabbè, ma dobbiamo rimanere nel nostro contesto, non è che facciamo una trasmissione sui robottoni, facciamo una trasmissione sugli anni 70 e 80 e in generale poi chiaramente tutto quello che ne viene fuori. La prossima puntata non lo sappiamo ancora di che cosa parleremo, ma sicuramente sarà un qualcosa di totalmente diverso, quindi anche per non abituarvi al fatto che poi magari diventa la trasmissione nerd degli anni 70, insomma, che non è necessariamente che debba essere così, anche se poi lo sarà, perché poi comunque alla fine torneremo in temi similari. Detto questo, io ringrazio Davide. Grazie anche a voi. Io, l'unica cosa che posso dire per in conclusione, io, come a differenza di voi, li ho vissuto in un modo molto più marginale, ho vissuto l'inizio dei tempi come tutti, ero già un pelo più grandicello, però è rimasto lo spunto, nonostante tutto, di quando poi successivamente ho cominciato a operare maggiormente nel campo dell'elettronica, eccetera, e in qualche modo gli esempi dei cartoni animati erano sempre lì pronti a essere replicati, quindi la voglia di fare dei robot veri e propri in casa con gli aggeggi che avevi a disposizione, e difatti negli anni successivi tante volte abbiamo costruito robot di vario genere, di varie forme, che in qualche modo sono stati probabilmente pilotati da questo mondo di cartoni animati, che comunque ho vissuto, sebbene non li ho guardati magari tutti con attenzione, li ho vissuti così, però era ovviamente una cosa che ogni canale che vedevi della TV c'era sempre uno di quei cartoni, poi a volte arrivati a un certo punto era proprio assuefatto, cioè ovunque sì, andavi poi è arrivato di tutto, certo, sì infatti, però diciamo che quella cosa lì ha fatto parte proprio della cultura, e quindi quando se avessimo visto dei cartoni animati di bambole, magari di macchinine, mi sarebbe venuto voglia di costruire delle macchinine magari, e invece si è cercato sempre di creare delle robe robotiche, probabilmente figli di questa esperienza collaterale televisiva giovanile. molto, da molto piccolo, che è entrata in testa, anche se non la volevi metterla tu in testa per i fatti tuoi, ti è entrata così mediaticamente. E quindi niente, vabbè, diciamo poco contributo su questo, ma sicuramente qualcosa nella testa è entrata, come diceva Carlo, anche dei valori che probabilmente sono in qualche modo entrati. Sì, esatto. Ma, poi magari faremo una puntata pure sulla TV dei ragazzi, quindi torniamo su un qualcosa di più occidentale, non so se voi lo ricordate, ma sulla Rai c'erano solo due canali e il pomeriggio dalla X ora all'Y ora c'era la TV dei ragazzi, cioè il momento in cui praticamente la Rai trasmetteva alcuni cartoni animati per le storiche di cui poi ovviamente parleremo, insomma, illo tempore alla prossima occasione. Barba papà. Grande Barba papà. Barba papà era una coproduzione anche quella giapponese. Il disegno era fatto in Giappone. Era strano Barba papà, cioè nel senso, non anticipiamo. Barba papà è una serie franco-belga con produzione dei disegni della Toei giapponese. Bene. Allora, ringrazio Roberto. Io vi dico solo buonanotte e ricordatevi che nessuno ce la fa contro Gundam. Grande. E ringrazio ovviamente Carlo, che insomma è stato grazie per avermi sopportato fino adesso. No, beh, stavolta è stato interessante, ma non è sempre interessante, scherzo. Allora ragazzi, vi ricordo soltanto che domani sera alle 23:30 Runtime by Night, come tutti i sabati sera, e andremo avanti insomma fino a che non ci viene sonno e poi spegniamo tutto e ce ne andiamo a dormire. Domenica alle ore 21 invece torna Michele De Paola con Mono, la sua trasmissione musicale, e poi c'era tutto il palinsesto di Runtime durante la prossima settimana. Vi ricordo anche di andare su www.runtimeradio.it, se vi capita c'è il pulsante Anch'io, dove potete comunque contribuire a quelle che sono le spese costanti mensili di questo network, di questo esperimento, e quindi fare una donazione o tramite Patreon oppure una botta secca su PayPal, così giusto per dire tiette dosti 5 euro e state zitto anche un pochetto. Ringrazio infatti tutti quante le persone che sono state in chat, ma soprattutto tutte le persone che durante questi mesi ci hanno supportato e sopportato, che insomma è sempre una cosa assolutamente positiva. Vi lascio giusto perché così insomma per chiudere bene la serata col buon umore, con la voglia di zompare, con la canzone di Daltanius, e poi subito dopo c'è il brano della settimana, quindi rimanete ancora un po' e poi ovviamente andrà avanti tutta la programmazione standard questa notte, ricordo dall'una ovviamente tutte le repliche Runtime by Night, insomma Runtime non ve lascia mai soli ragazzi, c'è sempre un sacco di roba da ascoltare, quindi seguiteci e poi prima o poi metteremo anche il palinsesto sul sito. Grazie a tutti, buonanotte e alla prossima puntata. Ciao. Notte. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Ciao Runtime, voglio presentarvi questo pezzo scritto per andare sui titoli di coda di Mountains of Madness Chronicle of Ismaut, che è un gioco in uscita a breve su Steam. Magari quando ascolterete questo messaggio sarà già uscito, chi lo sa. Comunque il 23 marzo 2021, un'avventura grafica di stampo lovecraftiano, e per me insomma Lovecraft è sempre stato un po' metal, un po' cattivo, un po' oscuro, e questo pezzo l'ho scritto proprio pensando ai suoi temi, e naturalmente narra un po' le vicende del protagonista principale del gioco. Si chiama Inside, Inside perché Lon Carter, il personaggio del gioco, ha qualcosa dentro, e se giocherete Chronicle of Ismaut, Mountains of Madness, capirete perché. Il pezzo è stato composto interamente da me, suonato interamente da me, alla voce c'è Gandolfo Ferro degli Emdal, gruppo in cui abbiamo suonato insieme per svariati anni, e del mastering si è occupato Massimo Barrella, mio caro amico chitarrista, nonché produttore molto molto capace, con molto orecchio, non lo fa di professione ma è molto molto bravo. Quindi cos'altro posso dirvi? Grazie ancora Runtime e buon ascolto. Stop! Ciao, sono uno spaghetto di riso integrale ricco di spirulina. Cerco una buona forchetta con cui arrotolarmi sfrenatamente. Con gli spaghetti di riso integrale Felicia, il benessere non è mai stato così invitante. Felicia, fatti di un'altra pasta.